E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La zanzara delle feste. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovati da me Alessio Maurizi, da Stefano Catone, Nadia Zammitti in redazione, Paolo Corleone in regia, 800 24 00 24, 18:06, partiamo subito tra poco anche con i vostri interventi in diretta. Oggi però è una giornata dove si sono confrontati Silvio Berlusconi e Mario Monti indirettamente, il primo poco fa a Sky TG24, l'altro Monti questa mattina a Radio Anch'io, quindi ci sono abbondanti tanti dichiarazioni, profluvi di parole dei due, li metteremo a confronto. Come sempre è più scoppiettante Berlusconi, nonostante insomma molti lo descrivono al tramonto, però bisogna dire che le dichiarazioni di Monti si fa un po' fatica, no? Anche a tirar fuori delle notizie, delle cose, perché lui è sempre molto calma piatta. Vabbè, ma questo lo sapevamo già. Iniziamo, Berlusconi. Non c'è domanda che mi possa far arrabbiare. Bene. Non ce n'è una. Naturalmente mi spiace quando sto facendo un ragionamento, e il ragionamento non si conclude. Lei capisce, mi toglie anche l'accordo finale, che lei pensi una canzone che si chiude, che lei il CD lo interrompe quando ci deve essere l'accordo, diciamo, finale, che è detto anche risolvente. Io non faccio parte della sua orchestra, quindi purtroppo non la posso però aiutare. Però è un'orchestra questa che ho creato io, perché questa televisione l'ho fondata io. Ah sì, anche sì, questa, non incredibile. Non lo sapeva, no? Ma pensi un po'. Salirò. Aveva ragione Benigni quando diceva che Berlusconi vuol far tutto lui, se c'è il matrimonio vuol far la sposa, e qua la televisione l'ha fondata lui. Chissà quale epoca dei vari passaggi prima che si arrivasse a Sky, a Sky si riferiva a Berlusconi, e sicuramente avrà ragione, perché del resto le TV in Italia le ha fondate lui, su questo non c'è dubbio. Monti. Mi ha chiesto l'onorevole Bersani recentemente: ma Monti, dica da che parte sta. Ebbene, io sto per le riforme che rendano l'Italia più competitiva e che creino più posti di lavoro. Mi brucerei. Vabbè, comunque a domanda diretta Monti continua a deludere, e forse gli conviene a questo punto giocare su questa vaghezza rispetto a questa questione destra e sinistra, e lui continua a dire che è per le riforme. Vabbè, ancora Berlusconi, questa dicono, mi dicono, io non me la ricordavo, l'aveva già detta. Nel mio Pantheon, guardi, no, non ci sono esponenti della politica, perché io non mi sento e non mi sono mai sentito un politico, quindi conosco persone importanti di cui ho letto libri, eccetera, italiane, tedesche, francesi, americane, ma non c'è nessuno che posso collocare nel Pantheon. Nel mio Pantheon io ho soltanto due persone, che sono quelle che mi hanno insegnato tutto e che mi hanno dato quello che è l'indirizzo morale da seguire nella vita, e sono mia madre e mio padre. Nel suo Pantheon c'è soltanto lui, in altre parole, cioè suo padre e sua madre, perché lo hanno generato. Lui è il suo riferimento per se stesso, è come sempre molto lineare. Questa era ironica, ovviamente. Andiamo, torniamo a Monti. La domanda sulle questioni etiche. I a sinistra, mi riferisco per esempio a Vendola e a Fassina dentro il PD, vogliono conservare, per nobili motivi, sicuramente in buona fede, un mondo del lavoro cristallizzato, si direbbe iperprotetto rispetto alle condizioni che prevalgono in altri paesi. Era invece la risposta sulla questione delle alleanze, delle collocazioni, avete sentito, dato del conservatore a Vendola e Fassina. Invece questa era più già sentita, si poteva immaginare che Monti dicesse che tra i conservatori ci sono anche loro. Invece sulle questioni etiche questa è importante, perché fino ad ora non si sa niente. Questo è un movimento di laici e di cattolici, ciascuno con le sue sensibilità, che dà alla dignità della persona un valore centrale, così come è richiesto dalla Costituzione. Sì. Per costruire questa coalizione larga a favore delle riforme, questi temi a valenza etica, che sono magari più, anzi, più importanti che non creare più lavoro, ma che fanno meno parte dell'urgenza sulla quale si costituisce questa coalizione, noi vorremmo su questi temi lasciare più spazio alle coscienze individuali e al Parlamento, e quindi almeno per ora non vedremo questi temi al centro del programma. Debole, debole, debolissimo, almeno per ora, lui dice, no? Perché poi è chiaro che la legislatura durerà 5 anni, questo è quello che si può prevedere o che si deve prevedere, e non è che si può rimanere sempre legati all'urgenza economica, almeno tutti ci auguriamo che non sia così. Però sarà l'impreparazione, perché tutto è nato in fretta, sarà perché il cuore dell'agenda Monti è tutto economico, ma sulle questioni testamento biologico, diritti degli omosessuali, coppie gay, tutto quello che volete, cose che mi sembra stiano a cuore in un senso o nell'altro a molti italiani, a Monti invece, anche se dice sono cose nobilissime, le snobba e non rientrano in nessun modo nel programma politico, si lascia libertà di coscienza, cioè ci saranno delle sorprese. In realtà, guardando a chi è nelle liste, si sa già come la penseranno. La parte cattolica la penserà come la pensano i cattolici, la parte laica la penserà in un altro modo, cioè un altro partito con altre spaccature al suo interno. Andiamo di nuovo a Berlusconi, la storia che non si dimenticherà mai, che non ci lasceremo mai alle spalle, di Rubi. La nipote di Mugara, scusi, è stata una cosa inventata. Non so da chi o dai giornali, io non ho mai parlato di nipote di Mubarak. Quindi a lei Rubi non le aveva mai detto sono la nipote di Mubarak? Aveva detto di essere figlia di una famiglia vicina come grado di parentela al presidente Mubarak. Ah, quindi non c'era la nipote? Non al quale presidente io avevo parlato di questa persona per quasi 15 minuti, 8 giorni prima, in un pranzo tenuto qui a Roma, Villa Madama, durante un summit italo-egiziano. E pensare che il Parlamento ha addirittura votato quando si sulle perquisizioni per il caso Rubi un anno e rotti fa, in cui si sosteneva proprio che Berlusconi aveva detto questo. Adesso scopriamo che lui non ha mai detto che era la nipote di Rubi, almeno quello che credeva lui. Vabbè, ma anche questo conta fino a un certo punto. Un altro passaggio sempre di Berlusconi oggi a Sky TG24 è quello invece su Bersani. Il nostro avversario è sempre comunque quel partito che viene dall'ideologia comunista, che ha cambiato molte volte nome, ma che si presenta ancora con le radici ben approfondite dentro l'ideologia del passato, e che ha in Bersani in questo momento uno degli uomini che era già però un protagonista diversi anni fa. Sicuramente ha ragione sul fatto che Bersani era un protagonista quando ancora c'era non il PC, il PDS. Però certo che quanta linearità, è veramente, ha ragione Monti, non gli si sta dietro a Berlusconi. Qua dice che Bersani resta il nemico numero uno. Poco dopo dice, anche se l'audio non ce l'abbiamo, ma tanto lo trovate da tutte le parti, l'ha già detto mille volte, meglio votare Bersani del centro di Monti. Allora devi decidersi, perché se il nemico da battere è Bersani, allora meglio votare Monti, no, che Bersani, a casa mia. Se invece è il contrario, allora è il contrario, e non si capisce perché ha detto, vabbè, insomma, non si capisce più nulla, non importa. E questa è la linearità di Berlusconi. Il resto siamo in campagna elettorale, quindi la linearità sfuggirà a molti, credo, non solo a lui, ma a lui sicuramente sì. Torniamo a Monti, la prima riforma da fare nel nuovo Parlamento. Riduzione del numero dei parlamentari e semplificazione del processo legislativo e intervento radicale portato fino in fondo sul tema dell'organizzazione territoriale dello Stato. È un copia e incolla, metà da Ichino, metà addirittura da Renzi, dal programma di Renzi, ed è un programma tutto orientato all'aumento della pressione fiscale e in totale sintonia con il programma della sinistra, con cui tra l'altro ha tranquillamente annunciato di voler collaborare. Anche qui si potrebbe dire, ricordo male io, Berlusconi disse di Renzi che copiava le sue idee. Adesso Monti copia da Renzi, però è di sinistra, mentre quando copiava da Berlusconi era ovviamente non di sinistra. Ma va bene, torniamo a Monti per un ultimo passaggio, sentiamo anche questo, sul l'IMU alla Chiesa, un altro concetto, insomma il rapporto col Vaticano, il sostegno del Vaticano, molti dicono insomma che vedono, cioè, d'altra parte c'è stato questo endorsement dell'Osservatore Romano, ma sentiamo come Monti ripercorre questa questione dell'IMU alla Chiesa. E ciò che è stato fatto è stato chiarire che l'IMU si applica anche a quegli enti che non hanno scopo di lucro per la parte dei loro immobili che è adibita ad attività commerciali. Quindi, e questo l'abbiamo fatto del resto in esecuzione di una decisione dell'Unione Europea, questo è un problema che veniva trascinato da anni, anche perché se si trattasse di IMU o di ICI nessuno osava fare chiarezza sulla situazione riguardante le organizzazioni non profit e anche la stessa Chiesa, e abbiamo invece con viso aperto affrontato il tema e questo è stato compreso. Salirò. Non parleremo solo di Monti e Berlusconi naturalmente questa sera, ma del resto era inevitabile risentire alcune di queste dichiarazioni di oggi che insomma caratterizzano un po' queste ore, la fase di apertura della campagna elettorale. Ne sentiremo, le risentiremo, però non capita tutti i giorni di avere interviste di un'ora in TV a due leader così importanti come Monti e Berlusconi. Già che ci siamo, vabbè, lo sentiamo dopo perché ci sono degli altri passaggi che sono sicuramente interessanti. 800 24 00 24, tra poco anche con i vostri interventi al numero verde. Adesso salutiamo il nostro primo ospite, diamo il benvenuto a Giovanni Baruzzino. Buonasera Giovanni. Buonasera. Lista SEL rientrerà tra i 23, almeno questo è quello che abbiamo letto, che non sono passati dalle primarie, non sono dovuti passare dalle primarie, è così di Vendola? Sì, è così. Anzi, ancora in forze, perché lei è operaio alla Fiat di Melfi. Operaio, io vorrei essere... Per modo di dire, perché non lavora. Sì, non lavora, come è noto a tutti, praticamente dopo la sentenza della Corte d'Appello, praticamente nonostante la Corte d'Appello abbia detto che insomma è condotta antisindacale da parte della Fiat, non ci fanno entrare a lavorare, ci pagano lo stipendio ma non ci fanno entrare. Perché allora ricordiamo brevemente, poi magari parleremo anche di questo, ma a noi ci interessa in quanto candidato del partito di Vendola. Lei era stato licenziato dalla Fiat per quella accusa di sabotaggio, poi il magistrato vi aveva reintegrato, la Fiat però vi tiene appunto senza lavorare, anche se vi dà lo stipendio a Melfi, e quindi questo è lo stato dell'arte ancora ora. Sì. Baruzzino, però veniamo a noi. Monti continua a dire che non è né di destra né di sinistra, ma che lui è un innovatore e ci sono i conservatori, tra i quali mette anche Vendola. Lei si sente un conservatore? Assolutamente no. Conservatore De che, direbbe lei? È una parola che non si addice soprattutto a chi realmente vive nel mondo del lavoro. Io lo dico così, sempre senza polemica, vorrei che queste persone che dicono che noi siamo conservatori di fatto venissero nelle fabbriche a vedere praticamente come è ridotto il mondo del lavoro. Poi, e com'è ridotto il mondo del lavoro? È ridotto sotto gli occhi di tutti, i diritti e la democrazia dalle fabbriche è praticamente scomparsa. Si parla di produttività mentre le fabbriche sono chiuse. La cassa integrazione credo che non ci sia mai stato nella storia tante ore di cassa integrazione in tutti gli stabilimenti, e qui si parla di tutt'altro. Io invece sono sicuro che prima di decidere il da farsi su queste cose bisogna consultare i lavoratori. Cioè, è paradossale che si parla di democrazia, si parla di innovazione, si parla di tutto, e tutte queste bellissime cose i lavoratori non possono scegliere né votare. Ma cosa farebbe lei, cosa farà lei qualora dovesse essere eletto? Per esempio una legge, una proposta di legge, la prima per risolvere queste questioni del lavoro? Io credo che la prima cosa che vada fatta è la legge sulla rappresentanza, perché cioè, è veramente una cosa assurda che il maggior sindacato che c'è in Italia hanno, che in gran parte delle fabbriche da sola in maggioritaria non riesce, cioè di fatto viene cancellata dalle fabbriche perché non firma un accordo. Io la trovo una cosa inaudita, questa cosa qua. Ci spieghi un po' meglio, è una cosa tecnica che non tutti conoscono, come funziona adesso e come lei vorrebbe che funzionasse? Io vorrei che funzionasse la democrazia, cioè che ogni singolo operaio, lavoratore ha diritto di scegliersi da chi farsi rappresentare e ha diritto di scegliere di votare per le cose che riguardano il proprio futuro. Cioè, è paradossale che in Italia si parla di questo, però quando si deve parlare degli operai, quindi dei cittadini italiani, questi cittadini non hanno il diritto nemmeno di scegliersi da chi farsi rappresentare. Ma perché non hanno il diritto? Ci dica meglio, cioè, perché lei dice in questo momento... Perché chi non firma gli accordi voluti dalle aziende praticamente non ha diritto di rappresentanza, cioè non c'è diritto di opposizione. Ma questo lei si riferisce al caso della Fiat o in generale? Ma insomma, questa cosa si sta allargando un po' dappertutto, sto vedendo, quindi non solo... Ma secondo lei Marchionne, che insomma era fino a qualche tempo fa portato in palmo di mano da tutti, poi piano piano a suon di distinzioni, mi sembra che ultimamente... le simpatie rispetto alla vostra causa, per esempio, forse sono maggiori. Lei lo sente questo o no? Sì, ci sono voluti, devo dire, ci sono voluti 3 anni. E in questi 3 anni ci sono voluti diversi cambiamenti di rotta, chiamiamoli così. Ormai i piani industriali non si contano più, se non sbaglio ne sono 5, 6, 7, non ho perso il conto. Però la cosa che a me un po' dispiace è che tutti parlano del mondo del lavoro, ma in realtà realmente cosa succede nel mondo del lavoro sono in pochi a veramente ad occuparsene seriamente, e questa è una cosa che mi dispiace profondamente, perché le posso assicurare che oggi gli operai, il mondo del lavoro vive una drammaticità senza precedenti, questa è una cosa assurda. Ma la prima emergenza è trovare lavoro o difendere i diritti dei lavoratori, secondo lei? Le due cose devono andare di pari passo, non esiste un lavoro è tale se è dignitoso. Ma chi non ha un lavoro adesso, no? Chi non ha un lavoro? Chi non ha un lavoro? Quasi 10% degli italiani e tra i giovani addirittura percentuali del 30% tra i giovani sotto i 25 anni. Sì. Secondo lei segue il ragionamento che fa lei oppure dice pur di avere un lavoro, se le condizioni del mercato, dell'economia sono queste, buttiamoci dentro purché ci sia il lavoro? No, io ci ho parlato con tanti giovani che vanno a scuola, ho una figlia che va a scuola, all'università, e le dico che tantissimi studenti, ma operai, seguono invece, sono molto attenti a quello che diciamo. È chiaro che in una crisi così devastante, insomma, non è che la scopro io, in un momento di crisi così com'è, cioè la paura prende il sopravvento, ed è chiaro che non è così facile poi che uno si esprime liberamente nel dire la verità, a volte magari fa finta di non sapere pur di conservare o di con la speranza di avere un altro posto di lavoro, ma non è così che possiamo andare avanti, e credo che nazioni vicine alle nostre lo stanno dimostrando. Ma quando Bersani, che è il vostro alleato, dice che l'agenda Monti non va sostanzialmente stravolta, ma va mantenuta con più equità, no? Dice Bersani. Lei su questo è d'accordo? Voi basta o no? O già questa è fonte di divisione? Le dico la verità, alcune cose, tantissime cose che dice Bersani sono condivisibili. Io sono in un altro partito, però in SEL. Io credo che la legge sulla rappresentanza, l'abolizione dell'articolo 8 e il ripristino dell'articolo 18 siano cose fondamentali per quanto mi riguarda. Noi abbiamo raccolto delle firme che, se non vado errato, siamo a più di 700.000 già, e saranno poi i cittadini a decidere, non è che cioè non si può decidere nelle stanze delle cose così importanti. Io credo che i cittadini, gli operai abbiano il diritto di scegliere e di votare queste cose che poi vanno ad impattare in modo, insomma, diretto nella vita degli operai. Ma anche questa questione dell'articolo 18, no? Che per come è stato modificato da Monti, secondo alcuni è stato modificato addirittura troppo poco flessibile. Voi invece volete ripristinarlo. Lei pensa che ripristinando l'articolo 18, oltre a tutelare i diritti di chi lavora già, si creeranno più o meno posti di lavoro, però? Io credo che creare posti di lavoro non è l'articolo 18 che crea i posti di lavoro. Chi crea posti di lavoro è l'innovazione e la qualità, cose che ultimamente in Italia se ne sta parlando forse troppo poco. Guardo a quei paesi che ci stanno molto vicini, no? La Germania. Io credo che sia l'esempio da portare avanti. Lì in tema di diritti non stanno togliendo diritti ai lavoratori, eppure le case automobilistiche tedesche, se non mi sbaglio, sono quelle che hanno accusato molto ma molto meno la crisi in confronto ad altri. Quindi sì. Di cosa stiamo parlando? Senta, ma tornando un po' a questioni più di politica, no? Il vostro nemico principale chi è? Monti o Berlusconi in questo momento? Guarda, di Berlusconi credo che tutti abbiano, insomma, adesso sono a conoscenza, non è che bisogna aggiungere altro. Io nemici non ne ho, credo che nessuno. Per me, quando uno parla di democrazia, la democrazia deve essere a 360 gradi, non può essere che arrivi a un certo punto e fai finta di non accorgerti che c'è la democrazia. Io nemici non ne ho, non ne ho mai avuti nemici, io guardo ai fatti e i fatti sono quelli che i lavoratori devono avere il diritto di scegliere chi farsi rappresentare e devono avere il diritto di decidere del proprio futuro. Oggi non è così. Ma qual è l'ostacolo maggiore, per esempio, se ci fosse un governo Monti o se ci fosse un governo Berlusconi? Io mi auguro che non ci sia né un governo Monti né un governo Berlusconi. Così è troppo facile, però non mi vuole rispondere Baruzzino. No. Scusami, io non ho, cioè, Berlusconi non, mi auguro di no, perché insomma sì. quello che è successo negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Quindi, ma io non vorrei nemmeno un governo Monti, assolutamente. Ma quindi secondo lei destra e sinistra esistono ancora oppure, come dice Monti, è una questione tramontata? No, per quanto mi riguarda esiste e deve esistere, perché la sinistra, io mi sento di sinistra e credo che la sinistra, quella vera, sia una cosa bellissima. Ma lei è anche comunista? Sì, io sono anche comunista, sì. E cosa vuol dire per lei essere comunista? Comunista, ci sono tante cose che uno può dire. Io penso che comunista è desiderare di avere un mondo, insomma, un'Italia più giusta, un'Italia dove veramente si parla del sociale, si parla di cose vere, perché qui c'è un mondo, ormai ci stanno portando un mondo non reale, un mondo virtuale, e quello secondo me non è possibile. Eccoci qua di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi. Cari ascoltatori, siccome oggi Berlusconi ha risposto alla domanda sul Pantheon, allora la ritiriamo fuori anche noi. Lei ha detto che si sente di sinistra, si sente comunista. Chi sono i suoi idoli, i suoi punti di riferimento nel Pantheon, Baruzzino? Io credo che persone come Berlinguer e come Di Vittorio siano delle persone che ogni persona di sinistra, insomma, deve guardare con rispetto e con ammirazione. Senta, non mette nessun altro? Qualcuno magari più recente? No, che ne so. Nichi Vendola è una persona, insomma, a modo, che a me personalmente, io lo conosco da 10 anni, insomma, è stato sempre sul mondo, vicino al mondo del lavoro, dalla primavera di Murphy, ma anche da prima, quindi è una persona che io stimo moltissimo. Ma non è stato un po' deludente il risultato di Vendola alle primarie del PD, le prime, dico, quelle per la leadership? Beh, l'ha detto già lui, lui ha avuto poco tempo per organizzare una cosa insomma più ampia, più duratura, quindi le parole che ha detto lui sono quelle che insomma chi meglio di lui può dire. È chiaro che ognuno di noi si aspetta sempre di più, però insomma quasi il 16% proprio male non è. E senta, invece, visto che nel prossimo Parlamento sicuramente ci sarà anche una discreta componente di eletti per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, con questo movimento lei personalmente dialogherà, ci sono delle vicinanze o no? Io l'ho detto poco fa, io dialogo con chiunque vuole fare delle cose che vanno incontro ai reali problemi. E secondo lei Grillo si propone questo? Scusate, posso fare solo un sì, appunto? Anche due. Poco fa, un po' di tempo fa, mi è successa una cosa molto che mi ha fatto molto pensare, la vorrei dire questa cosa qua. Praticamente eravamo in una manifestazione, uno, senza fare nomi, una persona che fa un industriale o un amministratore delegato di una piccola azienda, però una media azienda, praticamente faceva capire che non è che era proprio necessario che un figlio di un operaio potesse studiare, potesse, insomma, l'aveva fatto quasi capire. Ecco, queste cose qua sono le cose che non dovrebbero esistere, perché sono state combattute tanti anni fa e io spero che non vi tornino mai più. Cioè lei dice il classismo di no, imporre... A me è capitato una cosa del genere a una manifestazione. E le dico che è una cosa che mi ha dato un fastidio tremendo. Ma sua figlia invece studia all'università, ho capito bene. Faccio dei sacrifici per mandare i miei figli a scuola e sentire questa superficialità nel dire le cose è una cosa che non fa il bene dell'Italia. Maruzzino, sua figlia, ho capito male, o è in età da università, va all'università? Mia figlia sì, va all'università, 22 cosa anni. Studia? Ha studiato e si è già laureato in scienze bancarie. Ah, bravo. Scienze bancarie va dall'altra parte, va con la finanza. Ma la scelta è sua, non è mia. Io devo fare i sacrifici per mandarla a scuola. Ma mica la tradisce, la voterà? Come andate, d'accordo? Politicamente parlando. Mia figlia stravede per il papà. È chiaro, se no che figlia sarebbe. Grazie. Allora auguri di buon anno e anche per le prossime elezioni politiche. Grazie a voi. Giovanni Maruzzino è operaio da Fiat di Melfi, la storia la sapete, non è di questo di cui volevamo parlare, ma della sua candidatura nella lista di Nicky Vendola alle prossime elezioni. 18:35, 800-24, 0024. Andiamo con i primi interventi di questa sera e iniziamo da Lores che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Buonasera, buon anno a tutti. Senta, concordo con il signore che scegliere fra il pazzo e l'alieno sia da non dormire di notte. Tra il pazzo e l'alieno? Sì. Il pazzo è Berlusconi. Che io faccio un appello ai figli, fatelo curare. Per il bene di lui, per voi e per noi italiani, fatelo curare. Ha un problema grosso il papà, vi prego. Voi siete a posto, noi italiani siamo nella merda, tirateci via il papà. Grazie. Passiamo all'alieno, sì, sentiamo cosa ha da dire Lores sull'alieno. L'alieno Monti. Io so che il Movicol serve per l'intestino, no? Oddio, è partita bassissima Lores, sì. Cioè io non so cosa si può dare all'alieno. Non ho capito, cosa ha problemi? Ah, problemi di voce secondo lei Monti? No, di parole. Di parole. Cioè io per l'intestino consiglio il Movicol, fa molto bene, vi assicuro. Non ho capito cosa vuol dire Lores, vabbè, comunque. Spero che avesse altro da dire, oltre che... No, aspetta. Lui deve prendere qualcosa per riuscire a comunicare con la gente. Sì, però anche lei, Lores, secondo me, forse... No, dico, forse anche lei potrebbe prendere qualcosa per calmarsi un po', perché è partita il pazzo, l'alieno, insomma, vabbè. Qualcosa di un po' più costruttivo? Allora, più costruttivo. Beh, insomma, senta, con tutto quello così, che siamo all'inizio dell'anno, non partiamo subito in scivolata, se no dobbiamo arrivare alla campagna elettorale lunga, oddio, cioè, due mesi così non ce la facciamo. Non possiamo più dire niente. Scusi un attimo, allora io, da leghista convinta da 20 anni, soffro molto per quello che non ha fatto la Lega, no? Che ha fatto o che non ha fatto? Perché questa è una bella distinzione. Che non ha fatto. Cioè il federalismo, queste robe qua. Esatto, sì. Allora, il signor Bob Maroni, sì, che è anche un mio, sicuramente lui come ministro dell'interno è stato eccezionale. Lei lo mette nel suo Pantheon? Prego? No, niente, dicevo, Maroni lei lo apprezza, lo metterebbe nel Pantheon? Sì, ma da Roma. Mm. Come Nord, cioè io... Vabbè, ma mi scusi, l'ho interrotta, lei stava facendo un discorso, leghista, sì, da 20 anni. Allora, ultimamente... Delusa? Siccome lui è molto nella radio, no? Nelle radio, parlando delle... Che senso è molto che nella radio? Hanno fatto anche i leghisti nel Consiglio regionale della Lombardia, ha detto che eticamente sono da condannare, però se hanno rubato... hanno legge dalla loro parte, perché per legge con i soldi pubblici possono fare quello che vogliono. Allora io dico pubblicamente a Maroni, 20 anni fa vi abbiamo mandati a Roma perché aboliste quelle leggi che permettono di rubare e invece siete andati giù per continuare a rubare anche voi. Basta, Nord, svegliatevi. Quindi al Nord cosa bisogna fare? Non si può votare Maroni, non si può votare il pazzo? Votate Veneto Stato, Veneti, lasciate perdere tutto il resto, 20.000 miliardi all'anno che ci rubano. Siamo partiti bassi, siamo finiti bassissimi. Allora, Lores, cosa... noi sì, siamo considerati dall'ONU una nazione senza Stato. Vabbè, questa poi, sì, possiamo... sì. Yes, Podemo diventare... Ci saluti con una cosa in dialetto. E non mantenere più tre quarti dell'Italia. Buon Capodanno a tutti. No, Capodanno è già passato. Ci saluti con una cosa in dialetto. Cosa mangia stasera? Cosa si fa? Allora, cosa mangia pasta e pesoi? Sempre, tutto l'anno? No, stasera. È il classico, stasera. Stasera, una pasta e pesoi meravigliosa. Se fosse più vicino ad altri, lo inviterei a casa mia. Grazie. Dopo goco di sin, crauti e lenticchie e polenta. Ma Zaia com'è? Le sta simpatico? Poi la lascio Zaia perché c'ha da preparare pasta e fagioli. No, è bravissimo. Tosi e superlativo. Quindi ma c'è qualcosa di buono. La Lega l'ha delusa, però le nuove leve, Zaia e Tosi vanno bene. Tosi ha detto Tosi, però non vorrei deluderla, ha detto Tosi che Passera potrebbe essere un candidato premier credibile, ma non lo so, un amico dell'alieno. Guardi, lasciamo stare quella gente lì la lasciamo dal nord in giù. A noi altri non ne frega niente proprio, noi altri veniamo da un'altra cultura. Non veniamo dalla cultura delle banche e i disastri che ha fatto per rovinare l'Italia. Il conto in banca ce l'avrà anche lei, Lores, o no? No, il conto in posta. Ah. Arriva la pensione. Lei che lavoro faceva nella vita? Era allegrissima, Lores. Allora, senta un po'. Sì. Se lei pensa che io fino a 5 anni fa avevo una gioielleria e adesso vo manianca la casa che me aveva lasciato i miei genitori, e si rende ben conto. Altro che i commercianti che evade. Cioè lei è finita in ginocchio. Tutto, capito? Però la dichiarazione media dei gioiellieri è bassissima, è meno di quella di un operaio. E quindi... stai attento. A parte certe firme, a parte certi negozi, tutti gli altri, io assicuro me, mi fa la fame. Mi toccava fare un altro lavoro per pagare l'INPS. La pensione che c'ho adesso è la pensione di reversibilità, perché del sono marito. Vedova. Non ci farò mai la pensione, perché gli ultimi anni non sono riuscita a pagarlo. Ma lei a che età è andata in pensione? No, non che vuoi in pensione, perché non ho pagato abbastanza contributi. Ma lei ha parlato adesso che c'ha la pensione? Reversibilità. Ah, c'è solo quella, non ha, questo mi dispiace, non ha altre pensioni per il suo lavoro, zero. No, perché non ho abbastanza anni, capito? È andata, si è ritirata troppo presto. Di contributi, sì, ma lei quanti anni ha, scusi Lores? E allora... Scusi, per sapere, quanti anni ha, se posso? 63. Ah, l'aveva anche detto. E non ha abbastanza anni di contributi per la pensione? No. Ma questo per la riforma Fornero o anche prima? Anche prima. La riforma Maroni? E tutte le riforme che ha fatto sti ladri qua, che uno vale l'altro, guarda, no, non cambia niente. Va bene, grazie, buona serata, auguri Lores grazie da Vicenza. Grazie anche a voi, auguri. Personaggio Lores, sicuramente. Stefano dalla provincia di Aosta, non so se sarà possibile essere all'altezza, Stefano? No, non ce la posso parlare. Prego. Non ce la posso parlare. Vabbè, io telefonavo per questo motivo. Ho sentito le dichiarazioni di Berlusconi e mi chiedevo, ma c'è bisogno di riportare sempre, parlare dei comunisti, usare sempre la parola comunista per, come mazza di legno chiodato per dare conto a chi non la pensa come te. Cioè non è una cosa che abbiamo visto, rivisto, stravisto. Io sono dell'opinione che, per esempio, abbia fatto molto più danni in Italia l'anticomunismo che il comunismo vero. Sì, no, ma questo, vabbè, poi è una questione di punti di vista. Io però mi domando un'altra cosa. È vero che queste radici non si cancellano facilmente, ma ai giovani d'oggi, Berlusconi non parla più evidentemente ai giovani. Ci sono ragazzi che non sono nati, che non c'era già più il Partito Comunista, no? E che votano adesso alle elezioni. Lo stesso Bersani, che sicuramente è stato nel PDS, è stato anche nel PCI, ho capito, ma ci sono 20 anni di transizioni, di discussioni, di tutto quello che volete. È un passato veramente lontano, ma vedremo se farà ancora presa o meno sugli elettori. Comunque la domanda che lei ha fatto andava fatta a Berlusconi. Però quello che io mi chiedevo era soprattutto dal punto di vista giornalistico. È una cosa che infatti, è per cui. Ma dal punto di vista giornalistico, in che senso? Si riferisce a noi stasera o in generale? No, non tanto a voi, però a tutti in generale. Cioè, sempre, io vedo anche Repubblica, che non è un giornale proprio Berlusconi, però la sparata di Berlusconi non la tira fuori sempre. Ma guardi, è vero, lei ha ragione. Secondo me c'è un aspetto anche generazionale. Chi fa i giornali ha la stessa età o poco meno di Berlusconi principalmente, e magari chi ha ruoli di vertice, e tende secondo me a vedere le cose magari in maniera antitetica rispetto a lui, però sullo stesso binario, quindi comunisti e anticomunisti. Per quello io ho citato i ragazzi di oggi che sono nati dopo la svolta, quando il PC diventò PDS, il Partito Comunista non c'è più da oltre 20 anni. E allora dico, ecco, chi vuol parlare a questi ragazzi qua probabilmente deve usare argomenti diversi, credo, poi non lo so. Questo sicuramente, sì. Però vedo Berlusconi, adesso lo identifico molto come un animale rabbioso in un angolo dove deve per forza sputare veleno a destra e a sinistra sperando che i mezzi di informazione lo aiutino a fargli da megafono, ecco. Insomma, ho capito, però anche giornalisticamente, sì. Io immagino che possa pagare, però se la stessa situazione ci fosse, non so, in un paese dove magari ci fosse un giornalismo, non dico più evoluto, perché però. Ma scusi, ma cosa dovrebbe fare il giornalismo? Dovrebbe non riportare le dichiarazioni dell'ex premier candidato per il centrodestra? In base a quale ragionamento? Semplicemente minimizzare, sono tante cose da dire, e il modo di. Perché lei pensa che queste cose facciano presa sulla gente? Lei dice fanno presa sulla gente, quindi i giornali non dovrebbero dirle, se no rivince Berlusconi, questa è la sua paura. Non dimentichiamoci che Berlusconi è il maestro di queste cose, cioè sicuramente lui una fetta di voti li prenderà, perché c'è tanta gente che dice sì, lui è fatto così, perché lui ha ragione, perché questo, perché Monti lo ha tradito, Fini lo ha tradito e a destra e a sinistra, cioè lui con questa tecnica qua dei voti li prende, e va bene, ok, magari siamo in democrazia, tutti possono fare quel che vogliono, però. Esatto, se noi pensassimo questo, forse sì. Fare da megafono agli animali rabbiosi, rincagniti. No, ma sicuramente Berlusconi è essere in una fase difensiva e cerca di attaccare, è in parte vero anche quello che dice lei. D'altra parte possiamo anche pensare che, insomma, i cittadini italiani, i lettori dei giornali siano abbastanza maturi e consapevoli. Mi viene da ridere però, perché poi non è così. E allora, chi andiamo a sentire? Gerardo da Salerno, buonasera Gerardo. Buonasera a voi, buon anno innanzitutto. Grazie anche a lei, a tutti. Prego. Niente, io volevo intervenire sull'argomento spread. Ho sentito nelle puntate precedenti che questo parametro macroeconomico praticamente era una specie, non doveva essere considerato per quanto riguarda il nostro indebitamento. Invece non è così, bisogna far capire a tutte le persone che se aumenta questo differenziale, aumentano gli interessi che noi dobbiamo pagare sul debito e tutte le tasse che noi paghiamo vanno praticamente in gran parte a ripianare il nostro deficit. Non so se è questa più o meno questo parametro. Cioè, e logicamente ci sono pure meno risorse per quanto riguarda un eventuale come dire, abbassamento delle tasse, abbassamento del cuneo fiscale, soldi per le famiglie, soldi per, come dire, per le persone meno abbienti, per la sanità. Quindi chi dice sottovaluta oppure mette in cattiva luce questo differenziale, diciamo, dice delle, come dire, delle menzogne, non dice il vero. E questo a me premeva dire, perché quando si sente parlare di questo e poi si scopre che noi paghiamo un sacco di interessi e non dobbiamo fare la lotta comunque a questo per far abbassare questo livello. Si può essere poi d'accordo o meno sulle metodologie, sui rimedi, sulle misure che ogni governo prende, però questo purtroppo ricade sul nostro debito e quindi è una cosa che va comunque affrontata. Questo va bene, va bene, grazie Gerardo. Ci tenevo a dire. Ha fatto bene, ha fatto bene. È soltanto una cosa, una battuta. 20 secondi, 10. 20 secondi perché no. Vorrei soltanto... Sì. Ma come si fa ancora ad andare appresso alle butate di Berlusconi? Ecco, anche lei, grazie, l'ha detta. Per vabbè. Cortesia. Buon anno. Buon anno, arrivederci. Gerardo. A proposito di menzogne e di verità, adesso ha a che fare con quello di cui parliamo tra un attimo. Salirò. Salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò. Che sapete che ci sono posti nel mondo dove ci sono degli istituti che si occupano proprio di verificare anche le affermazioni, no, dei politici, soprattutto in campagna elettorale. In Nord Europa in particolare è un approccio diverso sicuramente alla politica, no? Uno dice una cosa e poi che conseguenze ha questa affermazione, questa promessa elettorale, questa dichiarazione? In Italia questo non c'è, però c'è un movimento, diciamo così, di giovani che tramite la rete e tramite alcuni siti interessanti si occupano un po' di questo. Salutiamo Daniele De Bernardin di pagellapolitica.it. Buonasera a tutti. Buonasera Daniele. L'ascoltatore parlava della questione del debito, verità, menzogne, quante ne abbiamo sentite dire. Cosa fate voi in due parole e poi diciamo quali sono le panzane più grosse che avete smascherato quest'anno nel 2012, le panzane che avete smascherato e che i lettori hanno votato scegliendo le tre più grosse bischerate tra i politici. Cosa fate voi intanto col sito? Allora, noi siamo Pagella Politica, siamo un sito molto giovane perché siamo partiti quest'ottobre, quindi siamo in vita da pochi mesi. Come intento abbiamo quello di guardare e cercare di capire se le dichiarazioni dei nostri politici siano veritiere o meno. Tutto questo ovviamente paragonando le dichiarazioni con i fatti e con i numeri che sono reali. Ovviamente non c'è nessun intento politico se non quello di essere un puro mezzo per i cittadini per avere un po' più di chiarezza sulle dichiarazioni fatte dai politici. Dico solo una cosa, Daniele, quando dici fatti e numeri si intendono documenti, esatto, documentazioni che esatto. Fonti primarie, noi cerchiamo di evitare di prendere articoli di giornale, persino andare fonti primarie di istituti, ricerche o comunque organizzazioni internazionali che possano dare dei numeri attendibili. Poi è ovvio che questa cosa può dare adito ad ulteriori interpretazioni, si può non essere d'accordo sulle fonti, sui numeri eccetera, però insomma voi fate in un tentativo. L'idea è vero che ogni dato, ogni numero può essere interpretato in tanti modi, l'idea è che noi diamo una risposta utilizzando dei mezzi che ogni cittadino può utilizzare, una risposta che darebbe un cittadino meglio. Diamo un po' di chiarezza su dei numeri che vengono spesso dati per scopo politico, noi gli diamo un po' più di comprensione, li traduciamo in un linguaggio un po' più comune. È davvero interessante e divertente andare a scorrere quelle che sono le affermazioni di alcuni politici, quelle che poi si sono rivelate alla prova dei fatti delle panzane, e questa è la cosa che più fa più ridere, ma che è anche illuminante in qualche modo. Quali sono quelle più votate di quest'anno che si è appena chiuso, Daniele? Allora, noi abbiamo lanciato un sondaggio su Facebook, siamo molto vicini alla causa dei social, quindi abbiamo dato la possibilità ai nostri fan di scegliere la panzana dell'anno. Abbiamo scelto le sei panzane che sono state più lette durante il 2012 e sul podio dei vincitori, se così si possono definire, sì, anche se di oneri hanno ben poco, abbiamo al terzo posto l'ormai ex governatrice, o almeno dimissionaria governatrice della Regione Lazio, Renata Polverini. che ha parlato appunto delle sue dimissioni come innanzitutto non fondate su alcun fatto, perché lei sosteneva di non aver commesso nulla, e poi di essere stata l'unica presidente di regione dal 1970 a essersi dimessa appunto senza nessuna motivazione, o perlomeno senza aver commesso nulla. Invece questo non è per niente vero, perché se uno va a guardare i fatti, soprattutto la Regione Lazio ha una storia molto interessante per quanto riguarda i governatori, perché ha avuto ben 22 presidenti di giunta in 25 anni, appunto dal 1995 a oggi, quindi numeri molto alti senza neanche andare a cercare troppo lontano, perché proprio nella Regione Lazio poche coalizioni sono arrivate a fine governo e pochissime si sono dovute sciogliere per problemi collegati al presidente, la maggior parte si sono sciolti, come spesso succede, per problemi di coalizione, quindi quando venivano a mancare la maggioranza, e quindi delle scelte un po' forzate. Quindi è stata una dichiarazione abbastanza forte e palesemente falsa. I nostri fan l'hanno regalato questa medaglia di bronzo per il fine anno. Poi andando avanti, medaglia d'argento. Medaglia d'argento e medaglia d'oro abbiamo i due politici che riscuotono più successo sul nostro sito, questo in bene o in male. Beppe Grillo alla numero 2, perché ha parlato dell'acciaieria dell'Ilva, dichiarando che era inutile spendere 2 miliardi di euro per risanare e fare ripulire l'acciaio dell'Ilva, perché le più grandi acciaierie d'Europa stanno chiudendo. Acciaierie d'Europa o d'Italia non si sa, come spesso succede le dichiarazioni sono molto vaghe, anche quindi la difficoltà. Beh, specie con Grillo, devo dire, perché lui fa spesso affermazioni molto categoriche, molto tranchant, senza scendere un po' nel dettaglio. È vero che poi esatto, ci sono i blog, è ancora più difficile, perché bisogna anche cercare di capire cosa si intendeva con la dichiarazione e cosa si faceva esattamente riferimento. Sì. Noi come sempre abbiamo preso la dichiarazione con le pinze e abbiamo visto che in realtà l'industria dell'acciaio in Italia, perché possiamo partire dal presupposto che si parlava di Italia, non è per niente in crisi. Certo, non sono più i livelli degli anni 90, ma negli ultimi anni si è vista una forte crescita del settore, i numeri sono cambiati, sono stati semplicemente per un ridimensionamento del settore, non tanto perché la produzione stia arrivando alla fine. Certo, non sappiamo i dati del 2012, che appunto usciranno a breve, però in realtà c'è una forte risalita, perché negli ultimi anni, anche rispetto al 2009 fino ad oggi al 2012, i numeri sono in crescita e l'Italia anzi è la seconda economia europea per produzione di acciaio, coprendo il 16,2% della produzione europea, quindi numeri che sono tutt'altro che negativi. Ovviamente con la crisi di quest'anno può essere che tutto cambi con i dati. Quindi non era vero, come aveva detto Grillo in quell'occasione, che è inutile salvare le acciaierie perché le acciaierie sono in crisi e non serviranno più a nulla nel futuro. La prossima, la prima promessa, sentiamola, perché mi sa che ce l'abbiamo. Tra l'altro, quando potete, credo che collegate anche i frammenti audio, insomma, di video, di quello che si può ricordare. Sentiamo. Per quanto riguarda il nostro debito, non è così elevato come si vuol far credere, perché si tratta di 2.000 miliardi di euro contro 8.600 miliardi di attivo italiano. Detraendo i 2.000 miliardi agli 8.600 miliardi, resta un attivo dell'Italia di 6.600 miliardi e risulta che l'Italia è la seconda economia più solida dopo la Germania. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E vabbè, inevitabilmente siamo rifiniti su Berlusconi. Questo perché i vostri lettori hanno votato questa come la panzana più peggiore, non migliore, migliore ma poi quindi peggiore dell'anno. Esatto. Perché era una panzana questa? Beh, innanzitutto è giusto chiarire che una dichiarazione del genere meriterebbe più una tesi di laurea, perché è una dichiarazione abbastanza lunga da spiegare. Però entrambi le parti, che sono quelle più interessanti, sono un po' delle panzane, perché dire che il nostro debito non è così elevato come si vuol far credere è un dato abbastanza illusorio, perché se uno prende i dati del Fondo Monetario Internazionale del 2012, l'Italia nella speciale classifica che mette il debito pubblico in percentuale al PIL è battuta solamente da paesi come Giappone, Grecia, Libano, Giamaica e le isole St. Kitts e Nevis, quindi una classifica. Insomma, il debito pubblico italiano non è in ottimo stato come lo considera Silvio Berlusconi. E la sì. seconda parte, anche qui è una questione un dobbiamo po'... Dobbiamo chiudere in 10 secondi perché poi c'è il giornale radio, scusa. Ok, la seconda parte è sull'economia più solida, la seconda economia più solida dopo la Germania. Anche il concetto di economia solida è un po' è difficile. Molto difficile da definire perché i fattori economici sono tanti e nessuno dei fattori economici in Italia è al secondo posto, quindi è anche in questo è una bella panzana. Pagellapolitica.it per chi fosse interessato a queste e ad altre panzane. Grazie Daniele, buona serata, auguri. Noi ci fermiamo qua, 800 24 00 24, giornale radio, torniamo subito dopo. La Zanzara. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino, salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Dalle altre nazioni avremo tante cose da imparare. Una forse la stiamo imparando, non fino in fondo, è il bipolarismo. Ci sono due grandi partiti che si confrontano, il voto non si spreca su piccoli partiti che rendono difficile il governare, il fare le leggi, e poi sono i repubblicani e sono i democratici. O i democratici e i repubblicani. Ma aggiungo, noi non siamo ancora una vera democrazia, perché non succede qui quello che succede in America. E questo era Berlusconi oggi a Sky TG24, e abbiamo detto un confronto a distanza tra lui e Monti, che ha parlato questa mattina a Radio Anch'io. Devo dire che su questo io concordo con Berlusconi, perché insomma sembrava una delle conquiste di questo periodo il bipolarismo e una chiarezza tra due blocchi. Adesso invece la discesa di Monti, la salita di Monti da questo punto di vista cambia decisamente le carte in tavola. Non è né destra né sinistra, dice Monti, non sono neanche il centro, però di fatto sono un centro, perché insomma, basta guardare chi li sostiene. Casini è da anni che teorizza il centro. Sentiamo Monti, quale passaggio? Quello su Vendola e Fassina, ce l'abbiamo? I veri conservatori? I a sinistra, mi riferisco per esempio a Vendola e a Fassina dentro il PD, vogliono conservare per nobili motivi, sicuramente in buona fede, un mondo del lavoro cristallizzato, si direbbe iperprotetto rispetto alle condizioni che prevalgono in altri paesi. Quando sarò solamente un punto lontano. Perché la Germania ha imposto alla BCE come unica missione quella di controllare, di lottare contro l'inflazione. E questo, Presidente, che cosa ce l'ha spiegato infatti più volte. Voleva arrivare alla fine, così la faccio parlare del futuro. No. Mi consenta di restare. Prego. Lei mi fa una domanda, io purtroppo sono uno completo. Prego. Per cui devo poter rispondere. È la voglia di farle tante domande, ma prego. Sì, però è molto meglio fare le domande più importanti e avere le risposte più importanti che tante domande che si affollano. Sta per litigare anche con Gianluca Semprini di Sky TG24, che credo sia il giornalista con meno voglia di litigare sulla faccia della terra. Proprio si vede dalla faccia che è uno molto tranquillo. Infatti poi non hanno litigato, c'è stato un accenno, no? Una piccola scintillina. Sentiamo Monti a proposito del silenzio sulla questione dei temi etici, perché oggi l'ha confermato, non è nell'agenda Monti, non è nel programma politico, lascerà libertà di coscienza, quindi non è un tema su cui chi è interessato a invece chi è interessato a questi temi sappia che Monti non dice assolutamente nulla. Questo è un movimento di laici e di cattolici, ciascuno con le sue sensibilità, che dà alla dignità della persona un valore centrale, così come è richiesto dalla Costituzione. Sì. Per costruire questa coalizione larga a favore delle riforme, questi temi a valenza etica, che sono magari più importanti che non creare più lavoro, ma che fanno meno parte dell'urgenza sulla quale si costituisce questa coalizione, noi vorremmo su questi temi lasciare più spazio alle coscienze individuali e al Parlamento, e quindi almeno per ora non vedremo questi temi al centro del programma. 800 24 00 24, tra poco con i vostri interventi in diretta. Adesso titoli del TG3. Borse scintillanti nella prima seduta dell'anno, a mettere le ali l'accordo a Washington sul fiscal cliff. Milano la migliore, spread in calo sotto la soglia fissata da Monti. Monti ottimista, siamo alla fine del tunnel, meno tasse sul lavoro. Berlusconi mi confonde, stravagante la sua idea di una commissione d'inchiesta. E il Cavaliere, il professore ormai non è più credibile, meglio votare il PD che il suo piccolo centro. Se vinco potrei non essere io il Premier. Il PD replica a Monti, eviti di scivolare anche lui nella demagogia e nell'antipolitica e intanto si fa il bilancio delle primarie per i parlamentari. Non sono bastati 5 anni per assegnare 145 posti da ispettore scolastico. Al TG3 uno dei candidati solo 2 settimane fa la convocazione agli orari. Ancora orrore in India, stuprate 2 minorenni, una bambina di 7 anni e una 17enne. Ieri le ceneri della ragazza morta dopo la violenza in autobus sparse nel fiume Gange. E in migliaia a Torino al cimitero monumentale per l'addio a Rita Levi Montalcini. Sino all'ultimo ha continuato a pensare al laboratorio e ai ricercatori, dice sua nipote Piera. Salirò, salirò fra le rose. E allora andiamo ai vostri interventi al numero verde. Cominciamo da chi cominciamo? Da Guido, dalla provincia di Pisa. Andiamo in ordine. Guido, buonasera. Buonasera a lei. Eccoci qua. Allora, complimenti per le sue domande molto intelligenti e equilibrate. Comunque io sono... No, temevo che mi stessi pigliando un po' per... No, io dicevo sono compaesano di nascita del grande Indro Montanelli, giornalista che è stato anche direttore del giornale. Fucecchio? Sì, Fucecchio. Si racconta, si dice, ma è vero, l'ho sentito a suo tempo, perché io ho una certa età, che quando lui era direttore fu chiamato, insieme ad altri, dal signor Berlusconi nel Panteo, e il signor Berlusconi, non so se sul serio oppure per fargli un complimento, gli disse se avesse avuto l'onore, il desiderio di anche lui di essere dei pochi del Panteon. E signor Montanelli non ho capito, rispose Domine non sum dignus. Questo è quello che mi ha fatto. Inoltre mi lamento sempre che nelle sue, quando parlava del signor Berlusconi, che poi ci litigò, insomma, e diceva sempre che è talmente bravo a dire le bugie che poi dice ci crede anche lui. Questo è, comunque, parlando di Monti, si parlava di Monti, io la mia idea è che, a parte che io ripeto, seguo la politica da tanto tempo, sono venuto modestamente dal niente, ho 2 figli che, come dice lei, non hanno visto neanche il comunismo. Parlando di Monti, io dico che è uno dei politico non solo intelligentissimo, sopraffino, che non è solo un tecnico, ho visto che è un politico veramente eccezionale, secondo me. Ma per esempio il fatto che sui temi etici oggi abbia ribadito che non dice nulla, parla solo di Europa, no? Questa è un po' una debolezza, allora, un po' un'eredità. Sì, però non è vero che non ha detto nulla. Ha detto che lui rispetta, un profondo rispetto per tutti e anche per... Sì, vabbè, ma queste sono frasi anche un po' di circostanza. I diritti umani, eccetera, eccetera. E quindi l'ha messo per ultimo. Ma ci dicesse almeno come la pensa lui. Come si fa a votare uno che si nasconde dietro la libertà di coscienza e non dice apertamente quello che pensa, lui personalmente almeno? Sarà un trucco per non perdere voti. Bravo. Va bene, però... Andare avanti 2 mesi così, sì, mi domando come sarà possibile. Lui ha anche detto, stiamo attenti ad una cosa, sì, che se noi si parte, io sono certamente a favore, non tanto dei matrimoni per quanto mi riguarda, ma quanto invece di tutti i diritti possibili e immaginabili. Ma io voglio dire questo, che lui ha detto, cioè, se noi si parte dal PD portando avanti in primo luogo con questo tema, e ci si dimentica degli altri. Lui con questo tema l'avrebbe messo dopo aver risolto i temi molto più importanti, per esempio quello del lavoro. Va bene Guido, grazie. Prego. Chiaro quello che voleva dire. Andiamo a Giuseppe dalla provincia di Chieti. Buonasera. Un attimo, eccolo qua. Va bene. Si deve congedare dagli amici. Sì. Io le devo fare i complimenti questa sera, sa perché? Perché? Lei sostituisce il bolscevico che fa l'aiutante a Cruciani, vero? No, io sostituisco tutti e due. Uno, prendi uno e paghi due, cioè al contrario. Ah, capito? Sì. No, lei ha fatto intervenire pure quello là che la Fiat paga, là. Sì. Che sembra che lui sia schiavo là, la catena di montaggio. Perché sembra che lui è schiavo? Chi ha detto questo? No, secondo i suoi ragionamenti. I miei ragionamenti? No, i ragionamenti di quel signore. Ah, di lui? No. Ah beh, ognuno dice quello che crede e se ne assume le responsabilità. No, io stasera le darei una medaglia. A me? Ma perché? Sì, a me, perché lei è riuscito in un modo professionale a ridicolizzare e a sputtanare il vecchio premier, giusto? Ah, adesso è passata a Berlusconi, sì. Pensavo parlasse ancora di Baruzzino, il candidato di Vendola. No, adesso siamo a Berlusconi. Con la sua trasmissione, con l'intervento che ha fatto fare, pure con Lancieri, ha fatto in un modo professionale, devo dire. Merita una medaglia. Sono stato bravo, l'ho sputtanato bene. Guardi, perché dice così? Che l'apparato a cui lei appartiene, no, diciamo lei viene usato, le potrebbe dare una medaglia. Lei sta dicendo un sacco di cavolate, guardi. L'apparato da cui io vengo usato? Sì. Vada avanti. È interessante. Io penso che la potrebbe pure candidare, no? Lei è perfetto. L'apparato. Candidato per chi? Per l'apparato. Sì, per l'apparato. Lei lo sa a chi mi riferisco, no? No, me lo dica lei. Come faccio a saperlo? No. Ma lei... Cos'è, una cosa tra me e lei? Non lo so. Chi è l'apparato? Scusi. L'apparato a cui appartiene, diciamo, anche il suo presidente, tutti quanti, no? L'apparato. Sa a cosa mi riferisco, lo sa. Facciamo finta che io lo sappia, ma facciamo in modo che lo sappiano anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, perché non stiamo parlando solo io e lei. Cosa si riferisce? No, mi riferisco che lei, cioè, a volte quando parla, sembra che sia stato pagato, oppure le hanno promesso qualcosa. Io sono pagato, giuro che sono pagato, stipendiato tutti i mesi. No, certamente, sì, se lo devo guadagnare il pane, no? Sì. Però io penso che... Non abbiamo capito nulla di quello che lei pensa, guardi, non abbiamo capito nulla di quello che lei pensa. L'apparato, mi dica cos'è l'apparato, abbia il coraggio di dire cosa pensa, cos'è l'apparato, perché se no, cos'è, un avvertimento mafioso? L'apparato. L'apparato. No, ma mi dica lei cos'è l'apparato, perché sennò così sembra un avvertimento mafioso. Ma lei chi è? Scusi, chi è l'apparato? Mi dica cos'è l'apparato. A cui lei appartiene, no? Sì, vabbè, non si... Allora, no, ma lei mi deve dire qualcosa di più di questo apparato. Cioè, adesso stiamo tutti sognando. Un applauso. Sì. Un applauso. E ci è riuscito perfettamente a ridicolizzare e sputtanare, no? Ha fatto molto bene. Io ho riportato le dichiarazioni di Berlusconi commentandole. Questo lei lo chiama sputtanare. No. Lei ha fatto solo possibile. Critiche. È possibile. Ha fatto solo critiche. Sì, ho fatto molte critiche. Solo critiche. No. E allora? Cioè, non ha detto una cosa. Allora... Una cosa che non... Cioè, quando fa una trasmissione... No, l'ho detto una cosa. Ho detto che sul fatto del bipolarismo ha ragione Berlusconi. L'ho fregata. Si vada a riascoltare. Quello l'ho detto. Però mi deve dire cos'è l'apparato. Io pendo dalle sue labbra. Io dico che l'apparato... Guardi che se lei non dice cosa intende per apparato, si sputtana lei, perché ha fatto un intervento da fesso. Bravissimo è stato stasera. Continui così. Guarda. Cos'è l'apparato? Cos'è l'apparato? Continui così. No, cos'è l'apparato? Mi scusi, non mi lasci così. Non vada via. Poi perché... Glielo dirò un'altra volta. Okay? No, lo deve dire adesso. È questo il suo momento. Continui così, bravissimo. Ma io continuo così sicuramente, perché non so far altro, però lei non ci ha detto niente di questo apparato. Farà molta strada, va bene. Tanta buonasera. Ne ho già fatta. Buonasera. Si è offeso. Buonasera. Ma come buonasera? L'apparato? 800 24 00 24. Adesso lo dico io che cos'è l'apparato nella mente di questo ascoltatore. Probabilmente le banche, la finanza, la massoneria, il Papa e forse anche la Confindustria. Era questo? Se è questo ci chiami e ci dia conferma. Però se era questo, lei non ha sentito bene, perché abbiamo iniziato dando la parola a un candidato di Vendola, un operaio che ha fatto della sua battaglia contro la Fiat la sua bandiera. Se questo è l'apparato, allora sì, lo ammetto, faccio parte dell'apparato. Buonasera Romano La Russa. Buonasera a voi. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ci stava il piccolo sfogo, perché gli ascoltatori sono particolari. consigliere regionale, ex PDL a questo punto. Ex PDL, esatto. Ed è per questo che la chiamiamo, perché la legislatura in Lombardia si è chiusa sostanzialmente, però al photo finish lei ed altri avete cambiato gruppo, avete creato dei gruppi consigliari diversi. Oggi sul Corriere c'è un articolo che chiede conto anche delle spese che questa cosa crea, oltre a essere definita una gabola elettorale per evitare di raccogliere le firme per le prossime elezioni. Che dice Romano La Russa? C'è una parte di verità in tutto questo o no? Ma non mi risulta esattamente, ma può anche essere. Io so solo che il nostro gruppo è stato costituito ormai quasi un mese fa, a seguito del distaccamento, chiamiamolo così, da parte del Popolo delle Libertà nazionale, con la nascita del nuovo partito Centrodestra Nazionale Fratelli d'Italia. Sì, e, con il suo avendo fratello. Noi aderito a questo partito, era credo giusto, sia stato giusto costituire un nuovo gruppo a livello regionale, in consiglio regionale. Per quanto concerne il gruppo Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale, questo glielo do per certo, non ha comportato alcun aumento di costo per la regione Lombardia. Ecco, questo è importante, perché sono due aspetti. Ma glielo dico anche subito perché. Non abbiamo assolutamente assunto nessun dipendente in più rispetto a quelli che già vi erano. Io ho un collaboratore, uno, così come gli altri miei colleghi. Il capogruppo, che normalmente ha una remunerazione leggermente maggiore, superiore a quella del consigliere regionale, in questo caso è Roberto Alboni, essendo già presidente di una commissione, comunque non ha diritto a quell'emolumento leggermente superiore. Quindi quello aveva e quello continua ad avere. Per quanto concerne il nostro gruppo, non c'è un centesimo di costo in più. Non ci sono i finanziamenti, scrive il Corriere che c'è questo dell'indennità. Vabbè, l'avete chiarito, avete scelto un presidente di commissione che non recepisce l'indennità e quindi non... Però il Corriere scrive anche che ballano alcune decine di migliaia di euro possibili di finanziamenti ai gruppi, senza specificare. Lei ci garantisce che non riceverete una lira in quanto gruppo? No, per quanto riguarda il nostro gruppo abbiamo specificato che non abbiamo bisogno di nulla, tanto di due mesi. Beh, anche perché, mi scusi, ma il gruppo non ha alcun senso se non quello... Di evitare la raccolta delle firme alle prossime elezioni, questo sì, ce lo consenta. Ma per qualcuno, ma le dico con tutta onestà, per qualcuno, forse per tutti, non lo so, per tutti gli altri, certamente. Perché... No, anche perché onestamente non siete gli unici, sono tanti gruppi. Tutta l'operazione si risolve in questo gruppo in consiglio regionale. Per noi è l'adesione a un partito nazionale. C'è stata una scissione, seppure consensuale, ho capito, però la legislatura, doveroso, scusi, La Russa, da parte nostra attaccarci. Ma doveroso a legislatura già chiusa, però si fa un po' fatica a seguirlo. Il partito è stato costituito adesso, lo so, però quando la legislatura è già finita, questo non comporta costi, non vedo che problemi vi possano essere. No, il problema, semmai, è questo che viene posto sempre da questo articolo, ma su questo io devo dire che sono abbastanza d'accordo. A cosa servono i partiti se non a raccogliere le firme quando si arriva alle elezioni, per esempio? Perché questo, siccome c'è una legge regionale, mi smentisca se sbaglio, del 26 ottobre, che appunto prevede per chi ha già un gruppo consigliare in regione il fatto che non siano necessarie la raccolta delle firme. Allora, prima di tutto, questa legge c'è o no? Sì, questa legge c'è certamente, e questo non si discute. Allora l'operazione sembra proprio che serva a questo, non tanto a prendere atto della nascita di un partito che, tra l'altro, il simbolo è stato depositato qualche giorno fa, il vostro gruppo è nato anche prima, quindi avete addirittura precorso noi i tempi. Noi ai primi di dicembre, guardi, noi il 4 di dicembre abbiamo fatto un'assemblea nostra e ci siamo costituiti come gruppo, nei giorni successivi abbiamo poi ufficializzato la cosa. Però non è un tradire di fatto, scusi, non è un tradire un po' di fatto lo spirito di questa questione qua? Cioè, un gruppo consigliare in regione ha senso se opera in regione, non dico per un periodo di tempo, ma almeno a legislatura aperta. Voi a legislatura chiusa fondate quel gruppo e questo vi consente di non dover raccogliere le firme sul territorio, cosa che tra l'altro uno dice, ma a che servono i partiti se non almeno a questo? Beh, io spero che i partiti servano ad altro che non a raccogliere le firme, voglio ancora sperare in questo, insomma. E a cosa servono? Per chi crede nella politica con la P maiuscola, come si suol dire, credo. Ma scusi, perché l'elezione non è un momento di politica con la P maiuscola, anzi forse è il momento, sì, per eccellenza. Ma infatti, ci confronteremo alle elezioni. Certamente. Però non mi ha ancora risposto alla domanda. Non è che, avendo costituito il gruppo, non partecipiamo più alle elezioni come tutti gli altri, No, ma chi ha detto questo? Io la domanda che le faccio a questo punto in maniera esplicita: la nascita di questo gruppo serve per evitare questo passaggio della raccolta firme o no? Raccoglierete le firme o no? No, non le raccoglieremo, ma non è stato questo quello che ci ha spinto, che poi questo sia un vantaggio, tra virgolette, chiamiamolo così, perché, ripeto, noi abbiamo è una coincidenza. Ma non facendo più parte, non riconoscendoci più nel Popolo delle Libertà, nel gruppo del Popolo delle Libertà, è doveroso per i consiglieri che non si riconoscono più in questo gruppo staccarsi e costituire un nuovo gruppo. Questo senza comportare un centesimo di costo in più. Sì, sì, no, è chiaro la questione della spesa, però... Guardi, tra l'altro la informo che avendo sciolto anticipatamente il Consiglio, così come avviene per le Camere, per la Camera e il Senato, la raccolta delle firme viene addirittura dimezzata, questo per tutti. Quindi non è che adesso, senza non falsa modestia o senza essere immodesti, non è che per raccogliere 1000 firme, perché di questi numeri si tratta, avremmo avuto grosse difficoltà, insomma. Però non lo farete, insomma. Fare tutto un escamotage, almeno per quanto riguarda noi ex Alleanza Nazionale. Però non lo farete, non sarebbe stato difficile. Non è che raccogliere, però, 1000 mi scusi, firme a Milano e provincia. Non sarebbe stato lei dice che non sarebbe stato difficile, però Formigoni ha avuto qualche problema nell'ultima raccolta delle firme. Ma io parlo per me. Cioè, non è che sia proprio così semplice, forse, la questione della raccolta, è una spesa. Gruppi della Lega o il gruppo degli amici di Ciellini, di Formigoni, che può darsi che abbiano avuto soprattutto quello scopo e quell'obiettivo. Per noi era doveroso, credo, una volta che non ci siamo più riconosciuti nel gruppo del Popolo delle Libertà, era doveroso costituire un gruppo autonomo. Ma avete fatto almeno avete partecipato almeno a una seduta del Consiglio regionale come gruppo Fratelli d'Italia? A quante sedute ha partecipato? Noi e soltanto noi, sì. A quante ha partecipato? Abbiamo fatto, adesso vado a memoria, non vorrei sbagliarmi, ma almeno 2 sedute di Consiglio regionale più alcune commissioni dove eravamo già come gruppo. Ho fatto io l'annuncio in consiglio regionale durante il consiglio regionale della costituzione del nuovo gruppo. Lascio dire a lei, che era già stato presentato precedentemente. Sì, lascio dire a lei il fatto che siete in compagnia, perché non è che siete gli unici che avete fatto questo, è per questo che c'è anche l'articolo, perché voi l'avete fatto per un motivo, l'Italia dei Valori non si sa per quale motivo, l'UDC adesso poi intervisteremo tutti, la Lega. Ma non è una cosa... È un po' una gavola, però, dai. Non voglio spezzare una lancia a favore dei sostenitori di Ambrosoli o di altri candidati, perché l'Italia dei Valori, parte dell'UDC, sosterranno Ambrosoli con una nuova lista che hanno costituito l'altro giorno. Sì. Evidentemente non hanno la forza per raccogliere le firme. Oh, però vede che allora mi dà ragione, cioè il cittadino o il per movimento... può darsi che sia così, ho detto io. Sì. Ho detto che per noi non per è stato così, l'abbiamo fatto per tempo. Anche se non raccoglierete le firme, però, e questo lo ribadisco perché sarà una coincidenza. Però ribadisco anche che raccogliere 1000 firme a Milano città, 2 milioni di abitanti, e provincia di Milano, 2 milioni quasi 4 Quante sono milioni le firme che servono per una lista regionale? Se fosse stato questo lo scopo sarebbe stato veramente ridicolo. Ma quante sono le firme necessarie per una lista a livello regionale? Dico 1000, ma sono 1500, una cosa del genere per la provincia di Milano, forse anche 2000, insomma. Non lo so con esattezza, ma credo che siano 1.500 in totale. Però capisce che, visto dal cittadino, uno dice noi cittadini, se vogliamo partecipare alle elezioni, dobbiamo raccogliere le firme. Chi sta nel partito e addirittura cambia il gruppo un minuto prima della fine della legislatura, tac, c'è la strada spianata. La legge che avete cambiato voi. Scusi, se non la legge che avete così, cambiato voi, però. No, perché ma non era l'abbiamo così cambiato noi, cioè, e chi la deve cambiare? La legge? Lo so, però se mi dice questa è la legge, scusi, la legge che avete cambiato due mesi fa. Ogni cittadino sì si sveglia al mattino e presenta la sua lista. Avremmo, come se non bastassero già le decine di liste che ci sono, avremmo migliaia. Ma questo di vale per chi non deve presentare le firme, per voi. La prima volta noi le abbiamo raccolte per 30 anni, per cui ogni elezione fa storia a sé, la russa. Poi non le raccogli più. Guardi che ogni elezione fa storia a sé, e questo discorso che lei fa è un autogol, perché no, mi sta dicendo che ci sarebbero decine di liste. Ci sono decine di liste, come la sua, che non ha neanche bisogno di raccogliere le firme perché ha fatto questa gabola, esatto, che lei stesso perché ha messo. Ha il gruppo, perché ha già dei parlamentari, è un gruppo che è presente alla Camera, al Senato e anche in Consiglio regionale. Altrimenti il signor Brambilla al mattino si sveglia e si dice: faccio un partito, tanto non devo raccogliere le firme, che me frega. Alla fine avremmo, non basterebbe un lenzuolo alla cabina elettorale per la descrizione. Questo succede però, guardi, sempre, e mi creda, non è colpa dei cittadini, ma è colpa anche della frammentazione. No, perché invece lei fa parte di un partito che è una frammentazione, perché viene dal PDL, ma è un partito in più. Se lei si lamenta della lista di partiti, è anche colpa sua, non per dire, ma insomma, potevate non farlo il partito se non voleva troppi partiti. Però mi dica solo una cosa a questo punto, chi sostiene? È una cosa che si chiama democrazia a questo punto, ma figuriamoci. È l'anima della democrazia sono i partiti, piaccia o no. Sì, no, ma su questo sono d'accordo con lei. Correttamente e onestamente. Chi sosterrete come presidente della Regione Lombardia a questo punto? Ma come presidente si sta ancora discutendo, lo sa bene, basta leggere i giornali. Noi siamo alleati con il Popolo della Libertà, ci auguriamo e auspichiamo, è una cosa che abbiamo detto sin dal primo minuto quando abbiamo costituito il gruppo, di poter riconfermare la coalizione, la maggioranza che ha governato benissimo, la Regione Lombardia. A parte un po' di scandali e qualche autocritica andrà fatta. Comunque ha governato benissimo. Però un po' di autocritica su questa questione di scandali andrà fatta, o no? Chi ha fatto gli scandali? Ognuno ha le proprie responsabilità, però la Regione Lombardia non per niente è il modello per tutte le altre regioni italiane. Siamo eccellenza in quasi tutti i campi, evidentemente qualche cosa di buono in questi 20 anni è stato fatto. Sì, questo dice lei, che siete eccellenza in quasi tutti i campi, le altre regioni magari non saranno. No, faccio la parte di non so, presidente dell'Emilia Romagna o della Basilicata. Milioni di cittadini. Sì, va bene, ma e quindi non avete deciso nemmeno chi sosterrete praticamente? Stiamo ancora discutendo, potrà essere, noi auspichiamo che sia un esponente del centrodestra, del Popolo delle Libertà, insieme alla Lega, non è escluso. Aspettate che Berlusconi decida, via. Della Lega, Maroni è un ottimo candidato, sì, così come lo è Albertini, così come lo è la Gelmini, così come Albertini lo è, lei lo voterebbe personalmente? Nelle prossime ore decideremo. Lei Albertini lo voterebbe personalmente? Sì, io non avrei nessuna difficoltà. Ma non è d'accordo con quello che dice Berlusconi, che è accecato dalla propria ambizione? Mi scusi. Albertini va bene se è esponente che unisce tutto il centrodestra. Ma questo non sarà mai così, questo lei lo sa, non sarà. Questo lo dice lei. No, vabbè, mi sembra chiaro, perché Berlusconi lo ha criticato duramente. Lo ha criticato duramente. Perché in politica le cose possono cambiare. Ah, beh, certo, questo siamo abituati. Va bene, non ci abbiamo capito granché sulle alleanze, però questo fa parte della politica. È un problema suo. Eh sì, è un problema mio e di chi ci ascoltava. Grazie a Romano La Russa, buona serata. Grazie. 800 24 00 24. Adesso voglio sentire se qualche ascoltatore c'ha qualcosa da dire su questo. Vabbè, insomma, cosa abbiamo? Il traffico, facciamo una pausa? No, andiamo dritti fino alla pausa delle 20. Giuliano da Modena, allora, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Buonasera. Senta, io faccio io una domanda perché non vorrei aver capito male. Io ho assistito all'intervento di una persona che si candida alle prossime elezioni e che risulta abbia esercitato un'azione di sabotaggio nella propria azienda. Io chiedo, uno che fa un atto del genere, come deve essere considerato? E in quale paese del mondo non sarebbe licenziato e magari avrebbe anche altre punizioni amministrative o addirittura di più. Questo in che senso di più? Eh? In che senso di più? Nel senso, non voglio dire la reclusione, ma dipende sempre da che tipo di sabotaggio. Mm. Voglio dire, qui invece assistiamo a questa persona che parla di democrazia, che dopo quello che risulta che abbia fatto, poi io non vorrei a questo punto sbagliarmi, ma parla di dignità, una persona che non lavora pur percependo lo stipendio e chiaramente parla di sacrifici per mandare i figli a scuola. Senta, io capisco che la mia è una telefonata assolutamente impopolare, probabilmente. No, più che impopolare, vabbè, è chiaro che l'operaio suscita sempre solidarietà a prescindere, quindi lei rischia di essere impopolare, però mi scusi, secondo me lei rischia di confondere un po' i termini, perché c'è una sentenza della magistratura che dice che non c'è stato sabotaggio e che la Fiat lo doveva riassumere e che poi la Fiat l'ha riassunto ma non lo fa lavorare. Questo è lo stato dell'arte. Poi uno può dire che non creda alla sentenza della giustizia, della magistratura, o che è una sentenza Ponzio Pilato che si lava le mani un po' della questione e che dà ragione al lavoratore anche se questa ragione non c'era. Però questo è lo stato dell'arte. Quindi, è vero. Però è anche vero che se c'è stata questa... Non è che lui prende lo stipendio a tradimento. Quello, loro hanno sempre detto che vorrebbero lavorare, però l'azienda, la Fiat, non li fa lavorare, non li fa entrare in fabbrica perché non si fida più di loro, perché secondo la Fiat loro hanno sabotato effettivamente. Quindi è così che stanno le cose. Partiamo dai fatti, poi... sì. Esatto. Allora, partiamo dai fatti. Se i fatti sono effettivamente questi, cioè che c'è stato un errore, per cui la giustizia dice no, avete sbagliato, assolutamente, loro non hanno esercitato nessuna azione di sabotaggio, per cui li dovete riassumere. D'accordo, giusto. Che semplicemente però che se invece la cosa fosse ritenuta vera, come mi pare che in molti credano e che ci sia stata invece una... Però qui è questione di opinioni, ha capito? Cioè la Fiat contro il giudice. Lei può dare ragione alla Fiat o può dare ragione al giudice, però non può dare per scontato che la verità sia... Perché la sua premessa è stata questa, una persona che ha fatto quello che ha fatto, eccetera. Secondo il giudice non l'ha fatto, quindi che dobbiamo fare? E poi uno ha diritto di candidarsi anche se ha sabotato un'azienda. Poi sarà la gente a dire no, tu non devi essere eletto, devi essere eletto. Da questo punto di vista c'è la libertà di candidarsi, sa... Dopodiché poi può essere giudicata anche per quello che ha detto. Grazie, grazie. Andiamo a... dove andiamo? Francesco da Caserta? Ma sì. Pronto? Eccolo, buonasera. Buonasera. Ci siamo. Oddio, sentiamo malissimo. Francesco, non lo so, vediamo di... No, la sentiamo troppo male, non si può fare. Riccardo da Genova. Riccardo, buonasera. Buonasera. Eccolo. Scusa. Sì. Eccolo. Chiedo scusa. Io ho chiamato perché volevo intervenire in risposta al sindacalista che avete intervistato alle 18:30. Sì, è lo stesso argomento di prima, Baruzzino. Esatto, Baruzzino, adesso non mi ricordavo il cognome. No, praticamente io contesto quello che ha sostenuto il sindacalista, in base al quale in Italia per rilanciare l'economia l'unico modo sia quello di investire. Voglio dire, secondo, a mio avviso, per rilanciare gli investimenti bisognerebbe anche fare, secondo me, una sana autocritica per come i lavoratori, i lavoratori dovrebbero fare una sana autocritica. Cioè, a mio avviso, serve più disciplina nell'ambito dei lavoratori. Io sono metalmeccanico, a mia volta, però a mio avviso il sindacato non punisce adeguatamente certi comportamenti scorretti di alcuni lavoratori, che alcuni lavoratori fanno in azienda. Per esempio, che tipo di comportamenti? Assenteismo, non lavorano adeguatamente, a volte magari anche in buona fede. Cioè, quello che voglio dire io, allora quel sindacalista ha fatto l'esempio della Germania, nel quale la Germania non si riducono gli stipendi se ha una politica differente. A mio avviso è dovuto al fatto che il lavoratore tedesco, secondo me, è più disciplinato di quello italiano, magari anche in buona fede. Magari anche in buona fede il lavoratore italiano è meno disciplinato, nel senso che cerca di dare a volte le sue idee per come fare determinati processi. Però a mio avviso in certi contesti lavorativi occorre disciplina, cioè fare esattamente quello che ti viene detto e farlo in tempi brevi. E questo, secondo me, da noi non succede tante volte, e questo fa sì che abbiamo un mercato lavoro, meno concorrenziale, meno appetibile agli investimenti da parte di investitori esteri e di investitori in generale. Lei dov'è però che lavora? Se posso chiedere. Io lavoro presso una piccola media impresa nell'indotto di Genova. A Genova? Sì. E da quanti anni? Da 3 anni. Si trova bene? Prima ero nelle forze armate. Sì, andiamo bene, ma ci diamo molto da fare, ecco. Nel senso che cerchiamo di spenderci anche nel mercato internazionale, questo ci porta, ecco, a dover lavorare molto. Ma voglio dire, faccio autocritica anche nei miei confronti e nei miei confronti nostri, ecco. Secondo me, ecco, il sindacato dovrebbe punire a sua volta certi comportamenti scorretti e non mi risulta che lo faccia mai. Non mi risulta. Ma lei nel caso della Fiat di Melfi e di Baruzzino, non so se si è informato, visto che è metalmeccanico anche lei, che idea si è fatto? Anche se poi non era questo l'oggetto dell'intervista, mi dispiace, ma era la questione politica e insomma la candidatura con Vendola, eccetera. Però insomma, è ovvio che la sua bandiera è quella. Quella cosa lì e mi è venuta voglia di chiamarvi per questo motivo, perché non sono assolutamente d'accordo che... Va bene, ho capito. Grazie, buona serata. Buonasera. Andiamo a... dove andiamo? Andiamo col prossimo ospite? Andiamo? Ce l'abbiamo? Sì. Anita Garibaldi Jallet, si pronuncia così, buonasera. Si pronuncia Giallè. Giallè, mi scusi. Presidente dell'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini. E qua apriamo un altro capitolo incredibile, perché noi abbiamo letto, ci dica se corrisponde in qualche modo a verità, sulla Italia Oggi, che prima di chiudere i battenti il Ministro della Difesa ha elargito una serie di finanziamenti alle associazioni, compresa la vostra, ripeto, l'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini, benemerita sicuramente, ma insomma, 10.000 euro, è così? Però non è una cosa nuova, è l'ultima rata, diciamo, di un finanziamento triennale 2010-2011-2012, sì, che è quello del 2012, dunque ci arriva anche molto in ritardo. Per il futuro invece non sappiamo. Ma per fare che cosa questi? L'avete già ricevuti prima di tutto? No, noi abbiamo un ruolo di memoria, come lei può immaginare, non siamo dei combattenti attivi, ma abbiamo ancora tra di noi un'ottantina di combattenti della Seconda Guerra Mondiale, persone che hanno tutti più di 90 anni naturalmente. Però ci spieghi un attimo meglio, perché Anita Garibaldi Giallè, lei è discendente? Sì, Giallè è il nome di mio marito, io sono figlia di Sante Garibaldi, che era figlio di Ricciotti, figlio di Giuseppe. Quindi lei è pronipote? Pronipote, bravo. Di Garibaldi. Ha fatto molto presto. No, vabbè, cioè, fin qua ce la caviamo con questo tipo di parentele. Sì, sì, sì. Adesso però come si arriva ad oggi? Cioè, nel senso, perché prima di tutto un'associazione di reduci veterani garibaldini, ma reduci... Il nome è nato con i primi reduci, l'associazione è stata voluta da Giuseppe Garibaldi proprio nel 1875 per i reduci delle patrie battaglie, no? Poi ha continuato con i reduci delle battaglie successive, cioè gli interventi in Grecia, e poi la prima guerra mondiale e poi la seconda guerra mondiale, dunque c'è una continuità naturalmente in veterani. Però è cambiato il contesto, perché nella prima e nella seconda guerra mondiale i garibaldini cosa facevano? Non è che erano presenti? Nella prima guerra mondiale hanno avuto un ruolo di volontariato nell'intervento in Francia nel 14-15, quando l'Italia non era ancora in guerra e c'erano lì ancora i fratelli Garibaldi, figli di Ricciotti, che hanno combattuto. Poi i garibaldini, il reggimento garibaldino, erano poi tra il 15 e il 18 i cacciatori delle Alpi, che erano la brigata, erano un reggimento creato proprio per accogliere i volontari garibaldini. Dunque sulla prima guerra mondiale è molto semplice. Sulla seconda guerra mondiale ci sono stati invece dei garibaldini che sono nati, che sono forze armate italiane abbandonate però nel 43 all'estero. Per esempio nel caso nostro abbiamo raccolto come primi soci, io ancora non c'ero naturalmente, i combattenti abbandonati nel 43 in Jugoslavia, che hanno combattuto contro i tedeschi tra il 43 e il 45 e tornati in Italia si sono civilmente organizzati in associazione per salvaguardare la loro amicizia, la loro fraternità, la loro memoria. E siccome era rinata l'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini, che era stata, come tutte le associazioni democratiche, cancellata nel 26, si sono aggregati dentro a questa associazione. Vabbè, insomma, è un filo un po' lungo, un po' sottile. Però ma è talmente sottile affatto, guardi, è un filo continuo. Ma mi lasci dire che il filo è sottile. Dal mio punto di vista, mi lasci dire che il filo è sottile. Dica. Perché poi ci saranno questioni storiche sicuramente, ma il punto è questo, perché la notizia siete in compagnia di altre associazioni a cui sono noi stati... Siamo i più piccoli, contratto come finanziamento. Ci sono 67.950 euro all'Associazione Nazionale Combattenti Reduci. Ma lì sono tanti. Tanti. 57.800 euro, però magari questi reduci della Seconda Guerra Mondiale può essere che sia più vicino. Sa cos'è? Che quando abbiamo visto i Garibaldini siamo saltati sulla sedia, perché uno pensa ancora i soldi all'associazione di Garibaldini, è una cosa folle, no? Cioè, questo è il solito scherzo, ma io le stavo... Ma non è uno scherzo, è una verità, e questo è il tragico, che è tutto no, vero. No, non è tragico affatto, perché io le stavo parlando delle forze armate tra il 43 e il 45, cioè la Seconda Guerra Mondiale, mica ai tempi remoti. Noi rappresentiamo questo gruppo e poi andiamo indietro con la memoria, ci occupiamo per esempio del museo di Porta San Pancrazio a Roma, che contempla tutta la storia garibaldina dalla Repubblica Romana ad oggi. Ma non sarebbe meglio federarle un po' di queste associazioni di reduci, in modo da diminuire le spese, le bollette, che ne so, al museo? Cioè, perché se no ognuno fa il suo, poi bisogna che alla fine il ministro venga a finanziare a fine anno, perché se no non ce la fate a chiudere i conti. Guardi, non è che il ministro a fine anno deve finanziare, mi permetta di dirle che l'impostazione non è giusta. Il Ministero della Difesa, che ha riconosciuto formalmente le associazioni che sono... Ho capito, ma quando le avrà riconosciute? Cioè, non è che possiamo andare avanti in eterno, oppure sì, secondo lei, dovremmo andare avanti in eterno con questi finanziamenti? Noi abbiamo adesso ovviamente quasi unicamente un ruolo culturale, a parte il fatto che possiamo ancora occuparci di anziani garibaldini che in qualche modo da noi sono sostenuti per partecipare alle cerimonie, eccetera, cosa che i comuni ci chiedono molto spesso, perché i comuni... Infatti, ma questi soldi alla fine dove vanno? Come li spendete? Vanno che ci fate? Manifestazioni, perché siamo sollecitati come associazione di partecipare a manifestazioni organizzate dal comune, la provincia, la regione, quel che è, no? Allora, per esempio, ne faccio un esempio, uno dei più simpatici nostri: ogni anno il comune di Cesenatico il 4 agosto organizza manifestazioni per ricordare il passaggio di Giuseppe Anita Garibaldi a Cesenatico, e questo è un ricordo del 1849. La nostra associazione, che ha un ufficio storico, è sollecitata a fare la conferenza, a organizzare la manifestazione, eccetera. Faccio presente che siamo tutti volontari, non c'è un soldo di spesa per noi che lavoriamo anche moltissimo. Noi utilizziamo i nostri soldi per le manifestazioni, per fare manifestazioni. Però culturali. Non vuol cogliere il suggerimento, cioè non crede che si possa, qui ci sono varie associazioni di reduci, non si potrebbe mettervi insieme e risparmiare qualcosa? Il tempo farà la sua opera. Per ora i nostri combattenti, quelli che noi rappresentiamo, sono diversi da quelli rappresentati da altre associazioni. Certo, tra pochi anni arriverà a essere così, del resto siamo già tutti... Arriverà il punto in cui saremo in bancarotta e non potremo più finanziare nessuno. Ma lei non questo lo niente, sa. Guardi, non è questa la bancarotta, questo è l'onore d'Italia, non la bancarotta, il disonore è altrove. Va bene, grazie, sì, grazie. Ognuno resta della sua opinione, ma è giusto che sia così del resto. E questo è il bello anche, no, di queste interviste e degli ospiti che chiamiamo a dire la loro. Abbiamo i titoli dei TG ancora? No. Allora facciamo un ascoltatore. Da dove riprendiamo? Datemi una mano perché l'elenco è lungo, magari è giusto ripartire da chi era in attesa da un po'. Michele D'Ancona, buonasera. Buonasera, sono Michele, chiamo D'Ancona. Eccoci qua. Volevo utilizzare la vostra radio, tra virgolette, privata, ma neanche tra virgolette privata, per fare un piccolo annuncio pubblico a favore di Peppe Grillo, non per far cambiare idea a chi non lo volesse votare perché ha altri credi politici, ma per quelli che insomma credono in quello che dice, o perlomeno in quello che profetizza, no? Mettiamola così, va, siamo anche noi critici. Ma scusa, lei mi fa così lo spot, così freddo e crudo, nudo e crudo, molto così. Molto freddo e crudo, guardi, non sono neanche uno di quelli che si possono definire un ragazzo cattivo, no, o di cattive idee. Ma lei è un grillino, Io sono un dipendente pubblico da poco, entrato fisso dopo 5 anni di precariato, ho studiato, sono laureato, ho fatto un dottorato, quindi non mi reputo uno stupido. Ma io dico, ci dica qualcosa di lei, cioè ci arricchisca un po' questo spot su Grillo, che sennò diventa veramente... Lo spot era per invogliare chi in qualche modo crede o comunque vuole dare il suo contributo per dare qualche soldo, visto che adesso c'è una campagna per raccogliere fondi, no? per le spese che il movimento deve sostenere. Io l'ho fatto. Lei ha votato alle parlamentari? Io ho votato alle parlamentari, più o meno. So c'era candidato votato. Pure? No. No, io non mi sono potuto candidare perché situazione, diciamo, non mi permetteva di seguire in primo piano la vita politica di questi tempi, quindi magari in futuro lo farò. Quanto prende Grillo? Quanto prendete come Movimento 5 Stelle alle elezioni? Eh, io dico che staremo intorno al 15%. Terzo partito? O quarto? Io spero secondo, perché Berlusconi spero che prenda il 10, però... Vabbè, no, se Berlusconi prende il 10 vuol dire che Monti piglia il 20. Monti piglia il 20, quindi no, io penso... terzo partito, Monti non ci arriva. Ma lei che è un elettore sfegatato e quindi che sostiene... No, mi faccia fare la battuta, sennò sì, oggi sì, è tutta una amarezza. Guardi, siamo all'inizio dell'anno, l'ho già detto, dobbiamo arrivare alla campagna elettorale, è lunghissima, non ci amareggiamo. Lei che appunto che sostiene Grillo al punto di chiamare radio per fare questa... Secondo lei il movimento deve dialogare con qualcuno oppure va avanti come ha fatto fino adesso? Solo a Parma governa, ma perché ha vinto il sindaco, è stato eletto più di tutti. Qualora non foste i più eletti, cosa eventualità che mi pare probabile, cosa deve fare il Movimento 5 Stelle? Secondo me prima o poi dovrà dialogare, perché io... Con chi? Però, con chi? io dico che dovrà dialogare con le persone, non con i partiti. Quindi schemi nuovi. Con Monti si dialoga o no? No. Beh, Monti no, Monti... Troppo europeista, voi siete nemici dell'euro. Ma non è tanto europeista, Monti è un po' il... Io dico... l'uomo della finanza. È stata messa la persona... giusta per qualcuno, al momento giusto, al posto giusto. Per cioè, voi è tutto il contrario, è messa al posto sbagliato, la persona sbagliata. No, io Berlusconi? Berlusconi, no. Che Berlusconi. Bersani? Per me, Bersani, no. Neanche no, lui. No. Allora, con chi dialogate? Mi scusi, da soli. In Groia? Io dico le persone. La Lega? No, vabbè, oddio, la Lega per qualche verso, per certi temi è... È grillina. va bene. Grazie per il suo endorsement. Peccato che la Lega? No, peccato che la Lega ragioni solo da una parte, al nord. Se no poteva essere un ottimo partito, insomma, politico per tutti quanti, però loro vogliono star lassù, vogliono vivere per loro, quindi... Va bene, ecco, grazie. L'ultima cosa, sì. date qualche soldo, insomma... Ma che date qualche soldo? Basta, mica anche troppo ha parlato su sta storia. Facciamo i titoli del TG1. I mercati festeggiano l'accordo sul fiscal cliff, spread a 283 punti sotto l'obiettivo indicato da Monti, borsa in forte rialzo, Milano la migliore. Monti, coalizione per crescita, meno tasse sul lavoro, io innovatore dalla parte delle riforme, commissione d'inchiesta su di me, ben venga. Berlusconi, Monti ha perso di credibilità, mio avversario è Bersani, il PD al Premier, attento alla demagogia, sulle riforme abbiamo nostre idee. L'ultimo saluto a Rita Levi Montalcini, migliaia a Torino per i funerali, l'affetto della sua città, la commozione di parenti e amici. Il diritto di cittadinanza per i figli degli immigrati, sono quasi 500.000 quelli nati in Italia, le loro storie dopo l'auspicio del presidente Napolitano. I videopoker come le sigarette, nelle sale da gioco e nelle ricevitorie l'obbligo di esporre un volantino che avverte dei rischi. La nuova sfida di Giovanni Soldini in barca a vela da New York a San Francisco, doppiando Capo Horn per stabilire un nuovo record. Le condizioni del mare sono ora difficili, dice al TG1, ma riusciamo a non perdere velocità. Riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 00 24 e chi sentiamo? Boh, andiamo a Michele che ci chiama da Milano. Buonasera. Non ci sente. Riccardo da Massa Carrara. Sì, buonasera. Eccolo qua, buonasera. Buonasera, io vi ascolto perché torno a casa in macchina la sera, quindi mi fate anche compagnia. Però devo fare un appunto. Lei l'ascolto anche volentieri, perché però quando, ecco, su un discorso di Monti che non mi è piaciuto su due o tre riprese che ha fatto. Cioè? Perché... No, cioè, quando, quando lei dice che mi è sembrato di capire che è lì per, a parte la criticata anche lei mi sembra, però quando dice che è lì per portare avanti un suo movimento e che in qualche modo può dialogare e può portare avanti un movimento sulle cose che lui ha fatto e che deve fare, così ho capito. Ma come si fa a dialogare con uno come Monti quando non si sa neanche cosa gli passa per la testa? No, mi segue? Quando a un certo punto è in tandem con uno come Casini. Premetto che io sono un ex UDC, sono stato impegnato a livello istituzionale, a livello di partito, a livello regionale. Mi sono sfilato quando mi sono accorto che Casini è un pesce in barile e fa gli interessi ora del suo socio Caltagirone in maniera troppo sfacciata. Monti cos'è? Monti è uno che fa gli interessi della classe, la classe diciamo bancaria nazionale e internazionale. Ho letto sulla stampa, come lei leggerà spesso, che addirittura quando è stato eletto Presidente del Consiglio faceva ancora parte di certe lobby bancarie e finanziarie internazionali, è una cosa vergognosa. Sì. Ecco, dico, come si fa, con tutto il rispetto mi conceda, delle volte l'ho sentito spendere qualche punta di lancia in favore. Io francamente non so se andrò a votare, benché abbia fatto politica per 20 anni o 25 anni, ma mi creda, se dovessi votare sicuramente non è per Monti. Ha messo in ginocchio l'Italia, non dà un segno di ripresa. Come si può dar fiducia a uno che è lì a fare gli interessi dei poteri forti trasversali? Monte Zemo, ma scherziamo, l'ex figlio naturale di Gian Agnelli, ma scherziamo. Ma questo a tutti gli interessi. Vabbè, Riccardo, ho capito quello che lei dice, ma per quanto mi riguarda, intanto bisognerebbe fare una distinzione tra governo Monti e ricandidatura Monti, perché se il governo Monti aveva degli elementi sicuramente di necessità, l'hanno detto tutti, insomma. Poi adesso ci dividiamo anche su questo. Berlusconi secondo me fa un torto anche all'intelligenza dei suoi elettori quando dice, parla della congiura. Perché lui allora si è dimesso, insomma, non c'è stata nessuna congiura, c'è stata la percezione di un rischio che ha spinto al governo Monti. Adesso Monti si ricandida. Io ho detto poco fa che sui temi etici, per esempio, non dice nulla, e questo è un male, è un segno di debolezza. Su altre cose non dice nulla, parla solo d'Europa. È chiaro che di qui ad arrivare a due mesi di campagna elettorale qualcos'altro dovrà dire. Allora scopriremo qualcosa di più di Monti, ci potrà piacere o non piacere. Però non basta l'operazione del governo tecnico, che già è stata digerita male dagli italiani, figuriamoci fermarsi lì. Invece Monti mi sembra di capire che scommetta proprio su questo: ci sto lì fermo, tranquillo, questa è l'agenda che ci salverà, salvifica. Fino ad ora è questa la linea che ha adottato, vedremo se gli porterà consensi. 800 24 00 24 e poi ascoltatori, intervenite anche su questo. Naturalmente abbiamo ancora 20 minuti buoni. Cosa abbiamo? I titoli della 7 intanto. I mercati esultano per l'accordo in extremis negli Stati Uniti che evita il fiscal cliff, volano tutte le borse, gli effetti soprattutto si fanno sentire in Italia. Milano record più 3,81 e lo spread sprofonda a 283, rendimento più basso dal 2010, 4 punti sotto la soglia che si era dato Monti. Mario Monti inizia la sua campagna mediatica da candidato premier. Destra e sinistra sono superate, avverte in un'intervista alla radio. Attacca tutte e due a Bersani, che gli chiede da che parte stia, replica: io sto con le riforme, affondo anche contro Berlusconi. È confuso sul piano logico. Il Partito Democratico risponde al confronto a distanza con Monti con una nuova candidatura autorevole nel listino, un altro professore, Carlo Della Riga, economista a Milano. Ma a Monti a sinistra arrivano anche attacchi, Fassina: la lista Monti sembra la lista Rotary, duro Vendola, Monti si mostra subito come un politico di razza, razza padrona. E Berlusconi rincorre l'alleanza con la Lega per tenere unito il centrodestra e per avere con sé il Carroccio Apre. Non è detto che poi sia io il candidato premier, io sono colui che guida la coalizione. Attacchi poi a tutti gli avversari. Ma la sfida elettorale non è solo la corsa a tre, in corsa ci sono altri ormai. Oscar Giannino, che si è presentato oggi, Ingroia, il quale cerca ancora per la seconda volta con una lettera a Grillo l'accordo, l'aggancio con il Movimento 5 Stelle. L'anno nero dell'automobile: nel 2012 le vendite del settore crollano sfiorando il meno 20%, come nel 79 quando il settore accusò una profonda crisi. Negli ultimi 12 mesi sono state vendute poco più di 1.400.000 auto, la Fiat perde terreno, ma aumenta la propria quota di mercato portandola quasi al 30%. C'è anche però chi la crisi non la sente per niente, anzi sono i super ricchi che nel 2012, come certificano i dati dell'indice dei miliardari di Bloomberg, hanno incrementato la loro ricchezza. Tra loro il magnate messicano Slim, l'uomo più ricco del pianeta, e due re del low cost, Amancio Ortega, Mr. Zara, e Ingvar Kamprad, più noto come Mr. Ikea. La Zanzara. Sembra dedicato all'ascoltatore di prima che diceva Monti ci sta lasciando in ginocchio, l'Italia non si riprende, come si fa a votare Monti? La prossima intervista, perché questo è un antesignano, se vogliamo, del montismo, guida un piccolo comune che si chiama Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, Luigi Fiocchi, che fa il montiano e dice ben vengano i tagli per esempio anche agli enti locali, unico sindaco al mondo, credo, che dice questo, benvenuto. Buonasera a voi. Lei è pazzo o cosa? Quando dice no, che... No, perché i sindaci sono tutti inviperiti con Italia, gli enti locali, certo, che Monti ha confermato, anzi forse ha aumentato, e lei dice no, i tagli ben vengano, sono doverosi. No, io condivido il non tirare a campare, condivido il rigore, condivido quello che è un confronto equo e con pari dignità tra chi amministra i comuni e chi sovrintende a enti superiori. Certamente non sono qui a non difendere i problemi dei comuni, soprattutto quelli piccoli, ma mi rendo conto anche che dobbiamo essere rigorosi, dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo recuperare quello che non è stato fatto negli anni passati, quindi sarà dura. Ma la linea è quella di Monti, lei dice, insomma. La linea è quella di Monti. La linea lei ha fatto, sì, mi scusi, poi la faccio proseguire. Lei ha fatto una lista nel 2009 in cui si diceva né destra né sinistra, cioè lei già due anni fa, certo, aveva questa cosa in testa. Come si chiamava la sua lista civica? La mia lista civica si chiamava Sì Uniti. Si chiamava? Sì Uniti. Sì Uniti, né destra né sinistra. Né destra né sinistra, perché eravamo appunto tre liste, per cui io ero il candidato di questa lista totalmente civica che ha avuto il... Senta, ma dica la verità, lei spera e tifa per una sua candidatura nella lista Monti, visto che fa il montiano? No, guarda, sono una persona molto ha voglia di impegnarsi, ha voglia di fare, crede nei valori che il professor Monti ha manifestato e manifesta tutti i giorni, e sono convinto che sia l'unica strada che ci può portare veramente ad un futuro di fatiche, ma ad un futuro sicuro. Non quindi è stato contattato per una candidatura, no? Ma no, non sono magari dopo facciamo un po' di pubblicità, poi può darsi che... No, sto scherzando. Che faccio già fatiche, creo già problemi ai miei cittadini, forse anche prendendo delle iniziative, ma delle mie iniziative insieme ai miei consiglieri ne rispondo sempre, perché sono una persona che si è sempre preso le sue responsabilità. Ecco, ma lei che è stato eletto e ha preso i voti, no? Su un programma, certo. Qual è, che programma era il suo? Già un programma di tagli agli sprechi? Cioè, certo, lei è andato ai cittadini a dire vi taglio i servizi, cosa ha dovuto tagliare in questi anni? Certo, cioè abbiamo sicuramente preso in mano quello che era una situazione difficile, complessa, complicata. Eravamo il comune più indebitato della provincia di Reggio Emilia, e credo che abbiamo fatto passi importanti, siamo arrivati a non fare più mutui, siamo arrivati a ridurre il debito, abbiamo mantenuto i servizi, nonostante questo abbiamo fatto investimenti, abbiamo trovato quello spazio che ugualmente, usando il rigore e il buon modo di governare, si può ancora trovare all'interno dell'amministrazione locale. Ecco, ma lei che sta in questo piccolo comune, quanti abitanti fa? Il comune fa 4.000 abitanti, ma è un territorio estesissimo. Cioè la popolazione, i cittadini, insomma, come la guardano quando la vedono in giro? Come il tagliatore di teste? Un rapporto diretto, perché poi vivo qua nel paese, quindi conosco tutte le frazioni, la gente, quindi sanno che sono una persona molto decisa, sono un, si dice anche testardo, però sono un uomo integerrimo, questo lo posso dire, quindi... vado fino in fondo insieme ai il mio gruppo, quando ritengo di essere sulla strada giusta e poter dare anche le risposte giuste che ho dato e che abbiamo dato in questi 3 anni alla nostra cittadinanza. Senta, ma ora, vabbè, lei fa il sindaco di un paese di 4.000 abitanti, quindi non è che, per amor del cielo, però è un politico, dal suo punto di vista di antesignano del montismo, ma tagliare la spesa pubblica, lei dice che nel suo piccolo comune c'è riuscito, ma invece Monti viene accusato anche di non aver fatto abbastanza, cioè che alla fine questa operazione di taglio degli sprechi è andata un po' sfumata come certamente, occasione. Certamente non ho potuto fare tutto quello che andava fatto e alcune cose le poteva sicuramente fare meglio. Però le tasse sono un po' aumentate. Certamente c'è spazio comunque per mettere a posto tutto. Quando ci si propone, quando si ha il coraggio delle proprie azioni, credo che si ha in mano anche la possibilità di ottenere i risultati come nel nostro piccolo abbiamo ottenuto noi. Ma lei ha tagliato, che risultati ha ottenuto? Cioè, voglio dire, è riuscito a tagliare gli sprechi o ha dovuto tagliare i servizi? Io ho fatto una lotta forte contro la comunità montana, ad esempio. Qui, l'ha tolta? Parti, che non ero l'unico sindaco che non vedeva, che non vede quest'ente nella sua produttività. Ma l'ha tolto? È riuscito a togliere la comunità montana? Chiedo continuamente di chiuderla e ormai spero di essere, che ci siamo fino in fondo. Ho seguito la mia linea nella gestione di certi servizi contro tante situazioni, mi sono messo assieme un altro comune, ho iniziato ad operare mettendo assieme dei servizi e creando delle cose concrete. Quindi, insomma, lei pensa che si ricandida tra l'altro alle prossime elezioni? No, guardi, io spero proprio che ci sia un mio vice sindaco, una persona giovane che si candidi, perché loro sono giovani, hanno lo spazio davanti molto proficuo. Io spero che seguano il mio coraggio e la mia tenacia. Questa è l'unica cosa che gli posso trasmettere, che mi ha fatto fare certe scelte. Comunque, insomma, lei è convinto che l'operazione, diciamo, montiana in piccolo del suo paese sia andata bene e che, insomma, i suoi concittadini non la guardano di traverso quando la vedono. Un bilancio sano, un bilancio fatto di mantenimento dei servizi nonostante i tagli, un bilancio che guarda al futuro con un modo abbastanza coerente. Ci aveva incuriosito questa storia di un piccolo comune in provincia di Reggio Emilia dove il sindaco, contrariamente a quello che fa l'ANCI, che fanno un po' tutti, che gridano ai tagli, insomma, con una presa così di coscienza dice no, i tagli bisogna farli. E così io li faccio in casa mia e li devo fare anche diversamente, però le posso dire che già qualche sindaco della provincia di Reggio mi ha chiamato e quindi mi fa già molto piacere, quindi non sono solo. Va bene, staremo a vedere. Grazie intanto e auguri anche a lei, visto che siamo appena all'inizio di questo 2013. Luigi Fiocchi, sindaco di Villa Minozzo, provincia di Reggio Emilia. Abbiamo ancora qualche minuto per i vostri interventi. Luigi da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Intanto è un piacere parlare con lei. Grazie. Perché lei conduce quella trasmissione con particolare equilibrio rispetto un po' ai suoi colleghi, ma soprattutto a quello all'Atere che c'è staffa, l'azienda che lo paga a fare solo per sentirlo ogni tanto strillare e chiamare poi l'autoambulanza quando non gli garba l'intervento di qualche ascoltatore, il che non mi pare proprio una cosa eticamente, diciamo così, apprezzabile. Vabbè, addirittura eticamente adesso, ma sono stili di cose di comunicazione. Sì, dottor Maurizio, sì, viene apprezzato, è stato quello che chiama solo perché non gli garba un pochino quello che dice. E poi un'altra cosa. Ma lei non avrà chiamato per questo, però, sì. Se ne fa l'intervento dell'onorevole Pomicino con Cruciani, che a un certo punto uno gli ha detto... Scusi, ma non avrà chiamato per commentare le vecchie puntate della Zanzara, o sì? Non lo posso fare? No, ma non lo so, chi è che ha ascoltato, chi si ricorda più, io per esempio non l'ho sentito, non so di cosa sta parlando. Va bene, lei non l'ha seguito, ma glielo dico io. Va bene, mi aggiorni. Glielo ricordo semplicemente io. Però veloce, Un Pomicino che a un certo punto un ascoltatore ha detto, dice, ma questo parla come se lui in passato non avesse avuto responsabilità e non fosse responsabile di questo... di questo enorme debito pubblico. Guardi, io le posso dire, dottor Maurizio, con presa con con coscienza diretta che quando c'erano lo sciopero degli insegnanti, gli insegnanti chiedevano 150.000 lire. Oddio, adesso gli insegnanti, sì. Poi Pomicino, che era il ministro del bilancio, dice: perché 150? 300? E allora i sindacalisti gli chiedevano: ministro, ma i soldi dove li prendiamo? No, preoccupate che emettiamo debito pubblico. Ma lei immagina noi che personaggi che abbiamo avuto? Ah, ma questo fa parte della nostra storia, sì, ha fatto bene a ricordarlo. Una storia triste, cioè. Senta, vogliamo fare un passo nel presente o ci salutiamo qua? D'accordo, ma guarda, le dico un'altra cosa nel presente, sì. Questo Cruciano l'ha stoppato subito, all'ascoltatore ce l'hai ammatto. È una vera ossessione. Assolutamente, semmai ammatto Cruciani in questo modo. No, ma le volevo dire un'altra cosa. Ancora una, però l'ultima stavolta, vai, vediamo se ce la facciamo a dire qualcosa. No, a proposito di Monti, lei sa che questo ha tagliato, è arrivato il professore e ha cominciato a tagliare. Per le persone è normale cominciare da me, che sono un modesto funzionario, ecco, funzionario dello Stato, sì. Con 2.000 euro di pensione, me dopo 47 beh, anni. Beh, mica male 2.000 euro di pensione, guardi che ha sollevato tutte una ola di approvazione, le facciamo un applauso, non è poco 2.000 euro di pensione. Ma assolutamente no, ma i 47 anni di servizio. C'è chi ne ha meno di pensione, avendo lavorato altrettanto, vabbè, comunque, sì, va bene, era solo va bene, una battuta. Va bene, sì. D'accordo, difatti io non me la vendo, è meno male. Ma questo signore, la mia pensione, così come quella di tanti, l'ha bloccata. Ma io sotto. Per quanto riguarda queste pensioni alte, che anche nella mia amministrazione, lei deve pensare che ci sono stati certi personaggi che da nulla ora prendono 5-6 mila lire euro al mese, questo signore non ha avuto il coraggio di tagliare né a quelli né a queste migliaia di caste che ci sono, che io personalmente, stando poi a Roma, oltretutto vedo davanti. Va bene, questo mi sembra che sia nello spirito suo e di tanta altra gente che la pensa così, giustamente o non giustamente, ma insomma. Ci salutiamo qua, grazie, è stato un piacere, è stato un piacere Luigi, non so se ha detto alla fine quello per cui aveva chiamato, secondo me no, perché ha fatto una serie di deviazioni, però non gli diamo altro tempo perché ci sono anche altri. Andrea da Milano, buonasera. Salve, buonasera. Ma veramente anch'io faccio le congratulazioni, finalmente la Zanzara è la bella trasmissione di una volta, si riesce a parlare ed ascoltare dei bei ragionamenti. Grazie, no, prego, vada. Le dico, partivo un po' dall'ascolto del sindacalista che avete fatto intervenire, no? Io poi non so neanche se è un sindacalista Giovanni Baruzzino, è un operaio della Fiat che si candida con Vendola, vabbè. Probabilmente anche sì, è anche un sindacalista. È proposto sì. Per le prossime elezioni da sì. Parte di Vendola, ecco. Sì. Io sono d'accordo, il fatto stesso di essere un operaio, però con tutto il rispetto per la categoria, non significa che uno ha le caratteristiche per entrare nell'agone politica nel modo più giusto, non so se mi spiego. Io non sono riuscito neanche a capire bene, nonostante le sue domande, quale fosse la proposta, no, della persona. Questo un po' per dire, non tanto per criticare il signore nello specifico, ma per dire che in politica oggi in Italia c'è bisogno di persone che hanno certe caratteristiche, che vanno dalla competenza all'integrità, no? Alla capacità di essere anche di esempio. Ora io, e qui volevo arrivare al discorso anche di Monti, io mi stupisco anche di tante considerazioni che sento da parte degli altri concittadini, no? Che ci avviciniamo a queste elezioni dove abbiamo finalmente visto una persona che ha segnato una distanza rispetto alla politica precedente, che facciamo anche fatica forse a definire come politica, vorendo fare un complimento. Senta, la fermo qua perché lei l'ha presa un po' lunga, voglio sentire un altro ascoltatore, se in un minuto riusciamo a finire con un altro ragionamento. Davide da Prato, buonasera. Salve, buonasera. Eccolo. Io volevo parlare a proposito del progetto scritto, qualcosa del genere, ho sentito prima, di questi ragazzi che facevano questa facella ai politici o comunque ai personaggi. Guardi, la sentiamo male, mi dispiace Davide, proviamo semmai domani sera a recuperare perché non si sentiva nulla. Ci fermiamo qua, con la Zanzara ci troviamo domani, l'ora delle feste, 18, 20 e 30, grazie, buona serata a tutti. Stefano Catone, Nadia Zammetti in redazione, Alessio Maurizio in studio, Paolo Corleoni in regia. A domani. La Zanzara.